sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Giovedì 13 settembre 2012, buonasera dalla voce di Agostino Spolore, ma soprattutto buonasera dal sottoscritto, ovviamente, ma anche dal mio ormai infaticabile, immancabile nonnetto. Ciao Maurizio. Buonasera a tutti, buonasera Agostino. Ti ho messo una fotografia su Facebook, guarda che sei... Sì, sono nonnetto. Sì, no, ma sei bellissimo, nonnetto, ti hanno già però messo un sacco di mi piace, guarda che... Sei molto grintoso. Allora, buonasera da Blu Radio Veneto, questa, dicevo, la voce di Agostino Spolore, che assieme a Maurizio Calzavara anche questa sera dedicheremo un live un po' allungato, perché purtroppo per i fans di Alberto Prisco non ci sarà, e quindi faremo quella mezz'oretta in più, insomma, giusto per lasciare ancora più spazio a questo grande artista che ci è venuto a trovare da quel di Verona, città o no? Valpolicella. un'ottima zona. diamo il benvenuto a Rudy Rotta. Ciao Rudy, e ben trovato qui a Blu Radio Veneto. Ciao a tutti, buonasera. Allora, e grazie per aver accettato ovviamente l'invito. Grazie a voi. Vi ricordo i nostri dati prima di cominciare questa carrellata di musica blues, perché lui è un grandissimo... poi mi deve rispondere anche perché ti hanno scritto diabolico chitarrista. Una definizione stranissima. Ma non lo so. Allora, i nostri dati tecnici, le nostre frequenze 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Poi ancora i nostri numeri telefonici, quello in studio è lo 049 875 6423, e se invece volete mandare qualche messaggio, qualche sms a questo nostro grandissimo bluesman, grandissimo artista che abbiamo questa sera ospite, vi ricordo è il 346 23 20 033. Ci potete ascoltare anche in streaming se siete collegati tramite internet, tramite computer, quindi basta semplicemente andare nella nostra pagina, al nostro sito, insomma, sito appunto della radio. Lì in alto sulla sinistra c'è scritto ascolta la radio, cliccando lì sentirete in diretta 24 ore su 24 la nostra emittente. Poi abbiamo le pagine su Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto, una, l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita appunto da Alberto Prisco, che tratta soprattutto principalmente il rock. E credo di aver detto tutto, Maurizio, cosa ne dici? Sì, decisamente. Possiamo definire Rudy cittadino del mondo. Rudy, va bene per te? Sì, va benissimo. Perché sei in giro dappertutto, in continuazione. Wieso hast du das so gemeint? Wolltest du jetzt von mir irgendwie eine Antwort haben, oder wie? Perfetto, ecco. Chissà il tedesco, decisamente. Ci puoi delucidare su questa frase? No, niente, gli ho detto soltanto, certo, dimmi pure cosa devo risponderti. Gli ho detto in tedesco, avrei potuto dirglielo in francese o in inglese, non è un problema. Quindi cittadino del mondo certo. Al 100%. Partendo però musicalmente dalla Svizzera, da Lucerna. Sono figlio di emigranti. È per quello che forse posso accettare il fatto che venga considerato un uomo di blues, perché sono figlio di emigranti, so cosa vuol dire la sofferenza e la vita dura. In realtà però io non mi considero un bluesman, perché noi comunque europei bianchi abbiamo un'altra realtà rispetto a quelli che erano appunto la gente di colore che in America faceva blues con ben altre problematiche. Cioè, quando sento definire soprattutto qui in Italia certi personaggi come bluesman, mi viene la pelle d'oca, sinceramente mi si rizzano i capelli, solo quelli e basta. Beh, non ne hai tantissimi, insomma, perché sì, cioè, voglio dire, basta con questi scherzi, perché siamo arrivati veramente a un punto in cui la gente già è ignorante, è una grande confusione. Se poi ci si mettono i media a dare delle informazioni sbagliate, allora siamo messi veramente male. Certamente. Quindi musicalmente sei nato... Ho iniziato lì. Hai iniziato a Lucerna, in Svizzera. Sì, ho lavorato per tantissime vacanze di scuola per comprarmi la prima chitarra elettrica. La prima chitarra elettrica, che marca era? Era una Axtrom svedese, che se l'avessi tenuta non l'avessi venduta, quello che me l'ha venduto, che era già all'epoca un miliardario, mi avrebbe offerto una città intera. E io invece l'ho venduta. Purtroppo la capita. Chitarra, sì. Poi sei ritornato in Italia... Hai cominciato a cercare di a calcare le scene, hai cominciato a guardarti intorno. Può essere così? Sì, sì, sono arrivato a Verona e ho preso la prima band che aveva messo un foglietto da Zecchini, noto negozio di strumenti musicali di Verona. Cercasi chitarrista. E via, comincia sempre così. E sono andato, e da lì è partita, perché io non conoscevo nessuno a Verona. Ma subito poco tempo sono entrato nei Condors, che avevano già una carriera piuttosto importante alle spalle, Festival di Arricia, degli Sconosciuti, La Pavone, Via e Via, Canta Europa, E abbiamo cominciato nel 70, nel 69, a fare tipo brani, tipo dei Rolling o degli Stones, come dicono all'estero, diciamo i Rolling, invece dicono gli Stones in all'estero America, dico gli Stones, vero? Gli Stones, è giusto, è più corretto. È più corretto. Dalla famosa Like a Rolling Stone, no, non è Like a Rolling Stone, ma è dalla famosa canzone di Muddy Waters. Mm, esattamente. I'm a Rolling Stone, dice lui, no? È vero. E praticamente facevamo i Grand Funk Railroad. Che bello, i Grand Funk Railroad. Sì. Dai, dai, fammi un momento i Grand Funk Railroad. Are you ready? You can trust me all the way. Questa era una, per esempio, no? dei Grand Funk. Io facevamo ricordo, i Jethro. Ricordo The Locomotion. Di chi? Dei Grand Funk. Ah no, io no. Io parto dopo. Molto prima. Prima, molto prima. Io parto dal primo disco che dovrebbe intitolarsi On Time, in cui c'era appunto. Loro avevano quel disco, scusa se ti interrompo Rudy, quello fatto con il soldo, no? Giusto? La copertina. Ma siamo già avanti. È Pluribus Funk. Sì, Funk era sì, è Pluribus Funk quello lì. Esattamente. Ma poi su questo qua invece c'era. Once I had a little girl. Sometimes I think about her. Perché non erano ancora miliardari. Vedi, è quello discorso. Heartbreaker, pezzo bellissimo. Esatto. Non erano ancora miliardari. Poi sono diventati miliardari. E di solito sai che quando la gente poi con la musica fa i soldi, poi si siede, diventano dei pantofoloni, capito? Cioè perdono la cattiveria, la grinta, no? Parlavi di Jethro all'inizio. Cosa facevi di Jethro? Ma Jethro facevamo Whenever heart gotta feel this way, pezzo dal quale gli Eagles hanno copiato Hotel California. Appunto, cito questo pezzo che tu hai citato. Esatto. E c'è un motivo, perché 2-3 settimane fa abbiamo fatto una trasmissione e abbiamo comparato il pezzo degli Eagles e quello di Jethro, chiaramente, che è copiato al 100%. Sì, gli Eagles sono stati molto intelligenti e molto bravi. Hanno fatto. Poi facevamo era uno su Aqualung, no? Esatto. Poi facciamo Driving Song, che era un blues. Era proprio un bluesone. Poi forse qualcos'altro. Poi facevamo già i pezzi di Brian Hogue. Brian Hogue, come fai a fare un pezzo di Brian, che è blues, sì, però blues con le tastiere, come lo facevi? Come no, lo costruivi? No, ma non facevamo blues, noi facevamo rock. Ah, facciamo. Ok. Sì, facciamo rock. Rock, facciamo pezzi degli Animals. Bello. Gina House Blues, che poi in realtà è un tradizionale arrangiato dagli Animals, e via via. E tutta musica che comunque i Free. Ah, i Free, ma ora è now. Me la fai in realtà. Basta questo per identificarli. Smiling from her head to your feet. Peccato che sia andato a cantare con i Queen. Lo so, ma sai, sono le vie musicali. Una voce. Rogers è probabilmente senza ombra di dubbio la più bella voce nera che l'Inghilterra abbia mai espresso. Sì, dici? In assoluto. In assoluto. Con i Free ha raggiunto dei livelli a livello vocale come nessun altro, credo. Da non confondere, poi non vuoi togliere nulla a Stevie Winwood, certo, ragazzo prodigio, l'anfan prodigio, eccetera, eccetera. Però Paul Rogers sul fatto della voce con i Free, secondo me, veramente ha spaccato. I Free era un gruppo straordinario, eccezionale. Straordinario. Io amo molto la musica sintetica, la musica essenziale. Non mi piacciono le musiche che contengono troppe cose, effetti e via via. Loro. Chitarra, basso, batteria e voce e basta. Poi c'è quel famoso disco Free at Live, quello dal vivo, che ha sradicato i live praticamente al 100%. Sì, tanta bella roba. Mi piaceva molto, ma è una band, il batterista moltissimo, il chitarrista, tutti. Mi piaceva un altro gruppo, non so, te lo ricordi sicuramente, gli Abbon Pie, te lo ricordi? Madonna. Facevamo Unicondos. Ah, bella quella. Guarda che io, dimmi. In un mio disco di beneficenza, ho messo dentro proprio un brano. Allora, Steve Marriott è uno dei miei preferiti in assoluto, fondatore degli Small Faces, certo, All certo. or Nothing, eccetera eccetera, bellissimo disco, pezzo bellissimo. E ho fatto proprio questo brano qua, che era nel primo disco degli Humble Pie con Peter Frampton, sì, e Steve Marriott con le chitarre acustiche. Grandioso, bellissimo, bravo. È vero, è vero, hai ragione. Bravissimo. Sai cosa stavo pensando, Maurizio? Dimmi. Potevamo chiamarlo. Lo so, ma anzi, io, anzi, vedi, lo facciamo l'invito. Mi stimola, mi stimola quando parla di cose. Mi stimola, viene fuori di tutto. Sì, sono positivo. Rudy, io te lo faccio pubblicamente. La prossima volta che decidiamo di fare una serata solo di rock, parlando della storia del rock e del blues e quant'altro, ci vieni a fare compagnia? Sì, vengo anche perché... Non con le tue canzoni, praticamente. No, mi sento in dovere. Vedo che voi ne sapete, ma io quando sento parlare certi speaker in televisione o in radio che parlano di rock, dicono delle puttanate e nessuno che li ferma, ma dicono veramente delle puttanate. Io ho sentito degli slogan pubblicitari su Radio Monte Carlo, roba del genere, in cui parlano e alla chitarra e all'armonica Muddy Waters. Muddy Waters non ha mai suonato l'armonica in vita sua. All'armonica Muddy Waters, cioè, non è possibile. Ma dare magari questi... l'avrà letto nel disco, che ne sai? Non esiste proprio. È come se io dicessi, non lo so, e sulla Yamaha Fausto Coppi. Ma quale Fausto Coppi sulla Yamaha? Non esiste. Avete capito che personaggio abbiamo stasera? Vabbè, splendido. È fantastico. Se provocare me, hai trovato del formaggio. Questo era il periodo di Condor. E poi cosa c'è stato, Rudy? Dopo questo bellissimo periodo di non è... Dopodiché, non possiamo chiamarle cover, sono dei pezzi che tu poi ci entri dentro, assolutamente, non è una cover. Dopodiché, pieni di debiti per aver comprato la strumentazione nuova e Lemon con il Leslie, che costava un sacco all'epoca. Bravo. Nei locali dove andavamo a suonare, cominciavano a storcere il naso perché il nostro era un repertorio inglese-americano. Allora mi ricordo ancora un vecchio romagnolo che era direttore di un locale che dice. Amo socio, ragazzi, ma qua la gente vuole sentire anche i pezzi dei Delirium, i pezzi dei Pooh, i pezzi della Cinquetti e questo, quell'altro e via via. E allora, per finire di pagare questo Hammond qua, abbiamo messo su 5-6 pezzi italiani che andavano in quel periodo. E questo era contento in fondo alla sala che sentiva i Condors che non facevano più i pezzi degli Humble Pie, dei Led Zeppelin, ovviamente. Eccetera, eccetera, e si vantava del fatto che praticamente da in fondo alla sala era riuscito a convincere i Condors a fare questi il pezzo della Cinquetti piuttosto che dei Pooh o questo che andate via via. Ma dei Pooh che cosa avevi scelto? Perché lui abbiamo un fan sfegatato di Pooh e in regia praticamente. Cosa avevi scelto dei Pooh? Mi sembra che poi il dramma era che era chi la cantava, nessuno voleva cantare quelle canzoni lì, ma dovevamo farlo perché ci avevamo da pagare Lemon. Esattamente. Potrebbe quindi... essere strana amica di una nera. Una roba del genere poteva essere probabilmente. Noi però poi, e qui non lo posso dire perché siamo comunque in una radio seria eccetera eccetera, in realtà i testi poi li abbiamo cambiati tutti, ed erano tutti quanti testi molto spinti, molto molto molto cattivi, e lui da in fondo alla sala praticamente si vantava perché ha visto, solo che dopo pochi secondi arrivarono i testi che erano esattamente l'opposto di quelli che c'erano sul disco, e lì è finita la nostra carriera. Eravate Sex Pistols all'inizio di carriera. Il lunedì pomeriggio riportiamo Lemon, il Leslie e le altre cose da Zecchini e si sciolgono i Condors. Da quel momento lì hai cominciato, Rudy Rod, ho cominciato a lavorare. Ha cominciato a lavorare. Ti fermo. A fare l'uomo d'affari. Prego. Allora, facciamo ascoltare qualcosa di tuo adesso. Vai. Sì. Abbiamo parlato anche. Però insomma, questa è una serata che si preannuncia molto, come dire, molto, molto bella, ecco, molto intensa. Serata libera. Io ti vedo già scatenato, Maurizio. Quando mi parla degli Humble Pie, di gente rotale, io ho una certa generazione, una certa età, visto che sono un nonnetto. Dopo, ricordami che ti spiego di Steve Marriott, sì, che cosa avrei dovuto fare che non ho fatto perché sono arrivato in ritardo. Benissimo. Ecco. Allora, prima di partire con la prima canzone che Rudy Rotta ha scelto da questo doppio lavoro, che si chiama I Been Up, I Love, c'è da fare qualche saluto, c'è... la Antonella Gucci che ci sta ascoltando, che la salutiamo caramente, e poi ancora c'è Nick Munerati, che poi tra l'altro fa parte di una band che fa blues, Rudy, dei Twisters, non so se li conosci. Sono qui della provincia di Rovigo, insomma. Di Rovigo. Sono venuti a trovarsi qui assieme ad Alice Violato. Bene, auguri. Quindi sono in ascolto anche loro. E poi ancora io devo ringraziare ovviamente la Cosetta, che mi sta ascoltando, che è qui con te, è venuto a trovarci questa sera, perché se tu sei qui è tutto merito suo. E quindi ha maneggiato la situazione. Sì. Ha fatto da manager, insomma, per questa tua presenza questa sera qui a Blu Radio Vento. Quindi ringraziamo di cuore Cosetta, con un bacione, un abbraccio, va bene? Grazie di cuore. E poi ancora Serena Finati, che è venuta a trovarci qualche un mese fa circa con il suo progetto Deja, che ci sta ascoltando in auto, dice, e ti porta i suoi più cari saluti. Poi ancora dalla Toscana c'è Marisa Viviani che dice: Marlon, perché probabilmente non ti ascolterò, però insomma quello che posso riesco a fare. E ci sta ascoltando ancora per pochissimo. Va bene, Rudy, allora facciamo ascoltare quella canzone? Sì, dal mio ultimo disco ufficiale, a parte il best, Blue Inside, I've Been Up, I've Been Low. SMS 346 2320 033. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qua ancora in diretta con questo grande artista, questo personaggio straordinario, questo grande, veramente grande musicista che si chiama Rudy Rotta. Ti porto già i saluti anche di Gianluca, che ti fa una domanda, Rudy, e dice: chiedeteli della Allman Brothers Band e del concerto del 1990 a New Orleans. A New Orleans, c'era quella sera lì, c'era, credo che avesse più o meno 16 anni, Derek Trax, il chitarrista strepitoso, eccezionale, nipote del batterista appunto del Allman Brothers. Io suonavo la sera prima in un locale, l'Absinthe Bar in Bourbon Street, e il giorno dopo sono andato in cerca di orecchini da regalare alle mie figlie, eccetera, eccetera, e mi sento battere sulla spalla, mi giro e c'erano due della band che mi fanno: ma tu non sai l'italiano che suonava ieri sera lì all'Absinthe Bar? Sì, ho detto. Dice: sai chi c'è questa sera che suona? Sì, dico: Greg Allman, eccetera eccetera. Dice: vieni che andiamo a parlare con lui, secondo me ti fa salire sul palco. E abbiamo fatto One Way Out, babe. Allora I just can't go out that door. One Way Out. E via via, insomma. Beh, se vuoi continuare qualche altro secondo. Alla House of Blues di New Orleans. You don't love me, pretty baby. You don't love me, yes I know. Tanto per dirne, ecco, un'altra che poi io ho anche registrato questa qua. Con John Mayer l'ho registrata. Un magnifico maestro. Ho fatto un misto. John Mayer, com'è? Matto. Matto. Più matto di me. Te lo stavo per dire. Mangia io. Mangia la carne avariata, smonta gli armadi, butta il televisore nella vasca da bagno. Matto. Però, ma tutta quella generazione lì di inglesi americani degli anni 50, anni 60... con le droghe e l'alcol sono andati fuori di testa tutti quanti. Certo. Baby di Eric Clapton, visto che è partito da là anche lui, quindi siamo sempre là. Esatto, perciò sì, cosa voleva sapere? Sì, con gli Allman è stata una cosa molto bella. Voleva sapere l'atmosfera, allora, che eri dentro gli Allman, là con gli Allman. Quello voleva sapere. Bellissima, ovviamente Greg era segnato anche quel giorno lì, anche la sera, da alcol e poi non so che cos'altro. Una cosa che ricordo è che quando sono andato a Pistoia a suonare, non so se l'anno stesso o l'anno dopo, si è presentato un ragazzo davanti al palco con la fidanzata e mi ha detto che mi avrebbe regalato la fidanzata per il fatto che io avevo suonato con gli Allman Brothers. Addirittura. Ho detto: puoi portare a casa la mia fidanzata. Non so la fidanzata cosa ha detto. Questo era il per lui il massimo. Hai capito? Sì. È un mito, cioè gli Allman Brothers sono sempre stati un mito, assolutamente. Beh, sai, loro hanno segnato effettivamente. Hanno segnato. Quei live che facevano loro, incredibile. Il filmorista è una appunto, roba tanta è mitico. Dice soprattutto il Giubino che non vi siete scambiati. Come fa a sapere? Sei informato. No. Vedi. Ti seguono. Guarda, io avevo un Giubino classico italiano di pelle elegante che sinceramente... Lui invece c'aveva quello della, non mi ricordo più, di un locale, il chiodone, quello giusto, bello, e voleva darmelo e prendersi il mio, però il mio me l'aveva regalato la mamma e bamba la pam, insomma mi sono pentito. E oggi lo porta mio papà. Ma pensa cosa sa questo. No, ma svegliamo il segreto, insomma lui è un collega di un emittente di Verona, di RCS, Gianluca, non mi ricordo più il cognome. Ho capito. Berlin, che è quello che ti ha già intervistato. Sì, insomma, sì, vero, verissimo. Quindi si ricordava tutte queste cose. Insomma. Maurizio pure. Sì, cioè, quando ho sentito gli Allman mi sono fermato. Perché... Io ho avuto nella fortuna di suonare con loro a New Orleans, alla House of Blues. Ho avuto la sfortuna che, date le condizioni sue fisiche, certo, alcol e droghe, quando siamo scesi dal palco, che siamo andati a mangiare e a bere insieme, lui mi ha detto: se tu mi porti in Italia, io vengo, mi paghi il volo e mi metti a disposizione o mi porti tu in giro con una Ferrari e non voglio niente. Mi ha messo in contatto con i suoi due manager, ne aveva due quella sera lì, mi ricordo, i quali mi hanno dato il numero. Tutti e due li ha licenziati dopo un mese e praticamente io non ho più avuto un contatto diretto con lui. Contatto che non ho chiesto, ovviamente, per rispetto. Educazione. Io avevo chiesto. Lui a un certo punto ha mandato a casa tutta la band e i manager li ha licenziati e praticamente quando l'ho rivisto a Pistoia dopo non so quanti anni non si ricordava più di nulla, ovviamente. Certo. Questa è la storia con Greg e gli Allman. E con Peter Green invece sono curioso io. Peter Green, ti posso raccontare solo una cosa, che quando è venuto a registrare Black Magic Woman proprio qui nello studio a Rovigo, abbiamo fatto poi il concerto al Teatro Romano, non tanto tempo fa, a Verona, no, non tantissimo tempo fa. Esatto. Lui continuava a chiedermi durante il giorno un coltellino per la sua collezione di coltelli. Coltellino piccolo, proprio piccolo, no? E io dicevo: senti Peter, dobbiamo fare le prove, dobbiamo andare a mangiare, dobbiamo andare in studio, dobbiamo fare questo e quell'altro. Insomma, è arrivata la sera del concerto del Teatro Romano che io sto per entrare sul palco, veniamo annunciati e lui mi fa: dov'è il coltellino, Rudy? Anche io sono andato al microfono e ho detto, per cortesia, se non vogliamo compromettere la serata, che in realtà non è che lui non aveva suonato perché è una brava persona, ho detto, c'è qualcuno di voi che ha un coltellino piccolo e me lo porta sul palco che lo regalo? Ne sono arrivati 7-8, ecco, di coltellini. Lui li ha scelti. E abbiamo dati e lui è stato contento. Lui come contropartita mi aveva detto, vabbè Rudy, tu so che vuoi una delle mie chitarre, aveva un centinaio di Stratocaster a casa, eccetera eccetera, ha detto te ne darò una delle mie. Poi in realtà, date appunto le sue condizioni, certo, che veniva comunque seguito da una persona, in più dopo c'era un avvocato, un'avvocatessa, si dice avvocatessa? Un sì, avvocato donna, la Katie, che curava le sue interessi, la Katie Feder, mi ricordo ancora, sì, no, che praticamente niente, il nostro rapporto, poi lui è sparito, non ha lasciato più tracce, è finito in Svezia, mm-hmm, e non so più che fine abbia fatto, credo che adesso sia di nuovo in Inghilterra, qualche concerto l'ha ancora fatto, sì, anzi sì, l'anno scorso, sì, in Italia, sì, qualcosa sì, e mi dispiace di non avere la sua chitarra, questo sì. Però insomma hai avuto questo onore, insomma. Ma è stato bellissimo, l'ho portato in giro da tutte le parti, ci siamo divertiti, a Londra, come a Verona, come a Rovigo, eccetera eccetera, una persona della quale conservo un ricordo bellissimo, addirittura voleva far fare a me le parti più importanti delle canzoni che aveva registrato, e io ho detto, no, senti, tu sei diventato famoso con questi brani qua, cioè... Stumble, ho detto, you play the song, e io ti faccio l'accompagnamento, ma no, dico, intanto la gente si incavola, si arrabbia con me, se vede che, e poi prendo anche del presuntuoso, cioè certo, questo qua è un brano, certo, certo, che tu hai reso famoso con John Mayer e praticamente vorresti farlo suonare a me, una persona squisita da quel punto di vista, molto infantile proprio per i motivi che dicevo prima, certo, però certo, ho un ottimo ricordo. Una persona che è sparita per molto tempo, è ritornata, poi è sparita, molto sensibile, sì, decisamente molto. Per quello lui aveva l'avvocatessa, perché spesso e volentieri è stato, scusate il termine, fregato alla grande, sì, proprio sì, per questo. Ci fai ascoltare qualcosa dal vivo? Suoniamo, Rudy, dai, quello che vuoi. Allora, siccome intanto citiamo, metto il pezzo che abbiamo trasmesso prima, da che album era, che periodo era. I've Been Up, I've Been Low, sì, questo è un disco che avrei dovuto registrare in America, con quasi tutta la band di Joe Cocker, che sono amici miei, da Mike Finnegan eccetera eccetera, certo. Joe Cocker ha protratto il tour, è finito in Sudafrica e non so dove, e loro non erano liberi, io ormai avevo scelto di fare in quel periodo lì il disco, poi alla fine l'ho fatto in Italia con dei musicisti molto bravi. Io con le date non ho un gran bel rapporto, quando l'ho fatto 4 anni fa, sì, beh, 3 anni fa, il precedente che si è venuto a presentare è il 2006, che era Louisiana, poi quello dopo, quindi all'incirca 3 anni fa, sì, 4 anni fa. Oggi registrare è un problema, perché non trovi più le case discografiche che ti stampano poi i dischi, cioè io se faccio uscire un disco vorrei anche farlo uscire in un certo modo, altrimenti dire, non lo so, faccio un disco tanto per dire ho fatto un disco nuovo, non ha molto senso. Anche adesso sarei pronto per farne uno o anche due di dischi, però la situazione del mercato è quella che non se ne vendono più se non ai concerti, certo. Io ho la fortuna che all'estero, suonando quasi esclusivamente all'estero, dopo un concerto riesco a vendere. E secondo te, la classica domanda che mi viene spontanea a farti, perché succede questo? Succede perché c'è più cultura musicale, è inutile che ce lo nascondiamo. Non è che ci sia interferenze tipo internet e quelle cose lì, che scaricano tutto gratuitamente? Ma non, vedi, se io faccio un concerto in Germania, non sento mai la frase che sento in Italia, tu compra quello, io compro questo, dopo te mi fai la copia di quello, esatto, e ti faccio la copia del mio. Le comprano e basta, ma io stesso al massimo posso dire a un amico, senti, mi fai una copia di quel disco lì, perché so già che non andrei a comprarmelo perché non mi interessa l'artista, però magari c'è la curiosità di sentire cosa ha fatto, certo, ecco. Ma un disco che mi interessa, io ce l'ho in vinile a casa, io i Beatles, gli Humble Pie, i Zeppelin, tutti quanti, io li ho, Zappa, li ho in vinile, li ho anche in CD, cioè, perché comunque poi ci sono anche delle informazioni importanti su un disco, oltre che delle foto oppure dei testi, ci sono anche delle informazioni importanti, chi suona, bravo, chi l'ha prodotto. Bravissimo. Il produttore musicale ha un'importanza fondamentale in un disco, molta, certo, gente non lo sa, ma il produttore spesso è l'artefice principale del risultato del disco. Sì, sì, no, sono d'accordissimo con te, però sai, la figura che spicca è sempre quello, il cantante che porta successo la canzone, poi chi c'è alle spalle non gliene frega niente a nessuno, insomma, più esatto, o meno. Esatto. Va bene, cosa ci fai ascoltare adesso? Ma e cosa volete che faccia ascoltare? Quello io... che vuoi. Quello che vuoi tu, allora, scegli tu. A tuo piacimento. Tuo piacimento. Allora, il brano di prima, come molti, io non dico mai bugie, io vengo considerato un bluesman, ma in realtà... la mia musica non, è, anche se il brano di prima non era propriamente un blues, ma era un blues, no, sì, però con sì, altri riferimenti, ma no, ma è un mentre quando facevo le cose, well I see you walk down the road, I walk down the street baby, everybody knows you ain't so sweet, hey hey, why you make me wait, your mind now woman, whoa, it's gonna be too late, yeah. This is the last time baby, this is the last time baby, this is the last time baby, this is the last time mama, you're the last time baby, let me love you one more time. Questo è un classico. Questo è un blues. È un blues classico. Questo capito? È un blues, ecco, sì. No, perché bisogna anche un po' spiegare bene, no? Cioè, voglio dire... ma la contaminazione non è una brutta cosa, assolutamente. No, però è anche giusto dire che molte delle mie canzoni, già dall'inizio, da quando ho cominciato... strizzavano l'occhio in altre direzioni, certo. Beh, comunque la mia cultura, io nasco con i Beatles, nasco con gli Shadows, nasco con gli Spencer Davis, gli Who, Stevie Wonder, e poi arrivo in un secondo tempo al blues. Purtroppo c'è gente della mia generazione, voi sapete che io ho 27-28 anni, certo, adesso ne faccio 29 tra è vero, poco. Compleanno tra poco, grazie, esatto. Prego. E praticamente la gente della mia generazione che ha fatto questo errore clamoroso, che ha sempre saputo che i Rolling Stones erano dei fans di Muddy Waters e non sono mai andati ad ascoltarsi un disco di Muddy Waters, che gli Animals facevano Boom Boom che era di John Lee Hooker, non sono mai andati ad ascoltarsi quello di John Lee Hooker, e questo è grave secondo me, anche questo fa parte dell'ignoranza musicale. Cioè tu hai il dovere di andarti ad ascoltare gli originali. Capito? Lo so, ma erano ammaliati dalla peripezia musicale di Keith Richard, hai poi, capito? Che poi diciamocelo proprio fuori da internet tranquillamente. Cioè, gli americani nascono con il blues e muoiono con il blues. L'inglese non è proprio a livello caratteriale l'espressione migliore per fare il blues. L'inglese è bravo a fare rock. Io adoro il rock inglese, però sinceramente non sono un grande ammiratore degli inglesi che fanno il blues, o comunque li metto dopo, escludiamo John Mayer, dopo gli americani. Ma John Mayer è stato uno che ha portato avanti un suo progetto musicale, ma quando si parla di blues si parla prima dei neri americani e poi dei bianchi americani, perché gli Allman Brothers quando vanno sul palco, ragazzi, spaccano. Un altro gruppo che mi piaceva, non so se lo ricordi sicuramente, erano i Kennedy Heat. Sì, Candid, anche un gruppo che ha fatto delle cose molto interessanti, ma Little Feat ce ne sono... Ma Little Feat si sono riformati, sai che ha fatto un disco di recente? No, non lo sapevo. Sì, è uscito da qualche mese. No, non lo sapevo. Bello, dicono, io non l'ho ancora sentito. È uscito da qualche mese. Little Feat hanno avuto una tragedia, una tragedia continua, però un grande gruppo. Ritorniamo al discorso del blues, sì, inglese. No, io adoro... cioè, molti inglesi hanno fatto la loro fortuna, certo, in modo corretto o scorretto con il blues. Voi, sì, voi sapete che i Led Zeppelin con Who a Lotta Love non è altro che Woman You Need Love di Willie Dixon, che hanno copiato, che dopo hanno anche ammesso di aver fatto, ma non è l'unico. Sì. Mentre questo per esempio i Cream hanno mentre i Cream hanno sempre accreditato, anche se hanno fatto delle versioni molto diverse dall'originale, un pezzo come Crossroads che nasce in un modo di Robert Johnson, loro ne hanno fatto una versione completamente diversa, meravigliosa, però hanno scritto Robert Johnson sopra. Certo, queste qua sono le cose che si devono fare nella musica, perché altrimenti fai una cosa veramente molto grave. Perciò dico, nel rock io li adoro e mi piacciono più degli americani, però quando si parla di blues, ehi là, cosa sento qua? Li hai nominati, io te li ho messi. E Hai capito? Questo è proprio saccheggiato completamente. Ovviamente non è così aggressivo d'originale, non potrebbe esserlo. Certo. No, ovviamente. Ma lo saccheggiavano bene, dai. Molto bene. Molto bene. Beh, perché Robert Plant e Jimmy Page erano saccheggiatori di un certo livello. Page per me è stato uno dei chitarristi più geniali della storia della chitarra elettrica. Lo metto subito tra i primi 3-4 in assoluto, perché ha composto delle cose meravigliose, molto originali, molto belle, molto difficili. Ha fatto degli assoli incredibili, perciò resta veramente un genio assoluto della chitarra. Poi c'era Bonzo, ragazzi. Quando Bonzo era una macchina ritmica, Bonzo. Beh, ma non dimenticarti che poi il cervellone era John Paul Jones. È vero, era lui che è vero, il cervellone. Il bassista è sempre un cervellone. Pezzi. Anche di lui il bassista era il cervellone. Sì, c'è poco da fare. Esatto, hai capito. Perciò questo è un po' il discorso. Io quando vengo nominato come bluesman, devo dire che provo anche un po' di disagio. Intanto non sono un clone, non vado a rifare le cose vecchie di una volta, come ce ne sono in Italia moltissimi e anche bravissimi che rifanno il sound acustico del blues. Io mi dedico a scrivere altre cose che rappresentano di più quella che è la mia personalità musicale, che può essere una ballata, che non è un pezzo blues che si rifà agli anni 30 o agli anni 40. Ecco, questo è un po' il discorso. Poi prima si parlava di Bob Dylan, credo che abbia influenzato un po' tutti. Tu pensa che forse uno dei più grandi ammiratori di Bob Dylan è stato un personaggio che nulla aveva a che vedere a livello musicale con Bob Dylan, che era Jimi Hendrix. Ascoltava dalla mattina alla sera Bob Dylan. Difatti, guarda cosa ha fatto del pezzo di Dylan. Eccolo, la fai, ecco quello. There must be something out of here, said the joker to the thief. Questa qua, questo è il punto più alto probabilmente della storia del rock. Sì, anche me, certamente, no? Ricordiamo che questo fa parte di John Wesley Hardy, che era un disco assolutamente folk, ma Hendrix l'ha trasformato e è diventato un pezzo suo, perché, assolutamente suo. Ma perché tu qualsiasi pezzo prendi di Bob Dylan, poi ce n'è anche uno mio, non sbaglio, che è in programma adesso. Certo. Sì, se vuoi, sì. Questo è. Sì. I'm gonna shoot. Vai pure. 'Cause she was out with another guy. Hey Joe, I heard you shoot your lady, shot her down on the ground. Vabbè, questo era il grande Jimmy, che io ho visto nel 68. Dove l'hai visto? All'Allen Stadio di Zurigo. Sai chi c'era che suonava quel pomeriggio? Dimmi. C'erano i Traffic di Stevie Wonder. Devo alzarmi in piedi allora. Eric Burdon and the New Animals. Un'altra volta allora. I Cream. Jimi Hendrix. Mamma mia. I Move. I Move. Te li ricordi? Certo. Dai quali hanno... Tutta mia la città. Esatto, hanno preso. Ma che bravo. It's a Blackberry Way. Blackberry Way, esatto. Allora. Ma Jeff Lynne era bravo già all'epoca, sì. Com'è? Jeff Lynne era così bravo all'epoca. Beh, oddio, penso proprio di sì. Esatto. Ti ripeto, loro vengono tutti quanti dalla gavetta. Sì. Non vanno, molto dalla gavetta. Non vanno prima nello studio fotografico. È vero. E dopo a suonare. È vero. Perché prima Rudy ha detto una cosa giusta al microfono spento. Gente è diventata tanto brava, che abbiamo citato, mostri sacri, perché hanno cominciato a suonare continuamente, hanno fatto a gavetta, come tu hai fatto 40 anni di musica, 40 anni di giro per il mondo. Dobbiamo sapere che questo disco doppio che è uscito da poco e celebra i tuoi 40 anni di musicista. Sai che lì occorre dire una cosa molto importante. I tanti anni che io ho passato sui dischi rovinandoli, tirando giù le canzoni, che poi dopo regolarmente si sbagliavano, perché oggi i ragazzi vanno su internet, vanno su YouTube e trovano e imparano tutto quello che noi facevamo in 5 anni, oggi lo fanno in un mese. Perché ti fanno vedere tutte quante le cose. Noi per tirare giù una solo dei Beatles o di queste e quell'altra stavamo lì delle ore e ore. Ma non soffrono più. Non soffrono più. Non c'è la sofferenza. Non c'è la sofferenza. Musica è sofferenza. Bravo. Adesso c'è tutto. Il computer fa tutto. Ma esatto. Il computer non è un'anima. Non ha un'anima. Certo. E io penso così. C'è poco da fare. Però... E qui stasera facciamo sofferenza perché suoniamo. Ecco, esatto. Te lo stavo... Però tu hai fatto il furbo, Rudy, perché hai cominciato a parlare. So che non volevi tanto suonare, lo so. Ma suona. No, ma adesso non volevate fare un... No, facciamo quello che vuoi tu. Allora, io quando quando mi sono trovato in studio con Peter Green, ovviamente per fare Black Magic Woman, non so quanti sono gli artisti al mondo che hanno una versione su disco con lui di Black Magic Woman. Ah, pochissimi. Si contano sulle dita di una mano. Ecco, allora, ovviamente io l'ho fatta a modo mio, ma fatta con la chitarra acustica non può rendere. Got a Black Magic Woman. I got a Black Magic Woman. I got a Black Magic Woman. Got me so blind I can't see. Cause she's a Black Magic Woman. And she's trying to make a devil out of me. E via, no? Ma non è di Santana, è di Peter Green, ragazzi. Non è di Santana. E tutti pensano che sia di Santana. C'è poco da fare. Sai quante canzoni ce ne sono? Santana ha fatto i soldi con questa canzone. Ma tantissimi soldi. E gliele ha fatti fare anche a Peter Green, per fortuna. Sì, quello è vero. Sì. Che ci ha messo il suo nome. Puta. Ok, continuiamo allora. Questa era una, no? No, niente... che mi piace comunque seguire quello che è il mio istinto, che poi non è altro che il risultato di ciò che io ho ascoltato. Infatti la mia teoria sulla musica è che chiunque ama la musica con la M maiuscola non dovrebbe ascoltare la musica scadente, la musica commerciale. Perché? Soprattutto gli artisti. Perché ti rovini le orecchie. Cioè ciò che entra nelle tue orecchie resta. Se tu leggi Grand Hotel e se tu vai a vedere i film di, non vorrei offendere nessuno, ma di Ciccio Ingrassia e Franco Franchi, e vedi una cosa che resta nella tua mente. Un libro, se leggi un libro tipo appunto di Cronaca Rosa, resta nella... Invece l'artista soprattutto dovrebbe cercare di ascoltare le cose che gli possono dare ispirazione. Dunque le cose, anche le più svariate, può essere un pezzo di musica classica, come può essere un pezzo di Coltrane, può essere un pezzo degli Humble Pie. Sì, hai citato musica commerciale, ma Hitchcock Park degli Small Faces, che è andato in classifica, era un pezzo commerciale all'epoca. Commerciale nel senso godibile, accattivante, questo voglio dire. È vero. E allora? Tu devi essere in grado di capire, poi magari non sempre ci puoi indovinare, qual è la musica finta e qual è la musica vera. Io credo di sentirlo subito. Cioè se io ascolto un pezzo tipo Ichiko Park o ascolto All or Nothing e poi mi fai ascoltare un pezzo dei Duran Duran o gli Spandau Ballet, sento che sono due cose completamente diverse. Una è confezionato tutto bello carino qua e là, ma mancano proprio quelle che sono le emozioni. Manca l'anima certo. Che c'è invece nell'altra parte, certamente. Ovviamente, capito? Cioè se ascolti un pezzo come Message in a Bottle dei Police, senti che c'è l'anima, che c'è tutto dentro, no? Certo. Ecco, eppure non è una cosa vecchia, no? già più recente, per dirvi. Decisamente. Ecco. Cioè, distinguere un po' la musica finta dalla musica vera. Io tendenzialmente sarei per registrare i dischi, ma questo per tutti, direttamente in studio dal vivo, senza fare, ehi però... Ma i dischi tuoi come li registri con questo? Dal vivo? È dal vivo, appunto. No? Dal vivo, poi dopo il canto lo faccio dopo, aggiungo delle cose di chitarra, a volte le cambio, non sempre, a volte spesso la prima è buona, la lascio lì così come sta e dopo aggiungo magari delle altre cose. Anche se magari poi a volte mi verrebbe di aggiungere la percussioncina, lo shakerino, come facevano anche i Beatles, per esempio le mani, le famose mani dei Beatles... sono bellissime, l'ho fatto nel mio ultimo disco, ci siamo messi là in 7-8 in studio, abbiamo fatto le mani, queste cose qua. Però l'impatto è quello batterista che io vedo, che mi deve trasmettere delle emozioni, e suoniamo dal vivo in studio. Suoniamo qualcosa, dai, sì, adesso. Suoniamo dal vivo in studio o facciamo ascoltare qualcosa dal disco? Allora, cosa vuoi? Si parlava di Bob Dylan. Sì. In scaletta abbiamo messo It's All Over Now, Baby Blue. Esattamente, sì. No, sì, no, sì, ma è più lo avanti. Adesso più c'è, avanti. Mi hai proposto Your Gun. Your Gone è una ballata. Poi posso introdurla? Certo. Vai. Mi dici tu quando smetti, io faccio partire. Lying in my bed, I'm all alone. Reaching out to touch you, but you're gone. If I try, I can feel you near. close my eyes, it's almost like you're real. Don't know what to do without your smile. Don't know how I'll make it through the night. Wish I knew where you've gone. Oh, wish I knew where you've gone. I don't know where you've gone. SMS 346 23 20 033. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Vi ricordo che se avete qualche domanda da fare al nostro artista, al nostro grande, grandissimo Rudy Rotta, vi ricordo, quindi avete poc'anzi sentito il numero di SMS, cioè il 346 23 20 033. Se non volete spendere i soldi di un SMS, ci sono comunque le pagine Facebook, la mia Agostino Spolaore, oppure quella di Blu Radio Veneto, oppure quella di Blu Radio Veneto Rock Away. Potete tranquillamente scrivere lì quello che volete, poi io girerò la domanda al nostro artista presente questa sera. Io vi devo confessare un segreto che voi non lo sapete, ma mentre andavi in onda questa canzone lui ci ha deliziato, tu non lo sapevi Rudy, ma io ti ho ascoltato in preascolto mentre suonavi la chitarra su questo pezzo. Faccio sempre così io. Quando accetto la musica non sto fermo. Ecco. C'è da dire una cosa comunque, che lui forse non si vuole, come dire, pavoneggiare se si può, ma lui è stato considerato da, di entrare nell'Olimpo dei più grandi chitarristi mondiali grazie anche alla sua prima Stratocaster, è vero? Ah, perché la Fender, sì. Sì, la Fender. Mi ha fatto due chitarre firmate, sì. Che poi... E quindi, insomma, cioè, è un onore questo, insomma. Sì, sì. Vuol dire che te lo meriti. Adesso è un parolone. Io, sinceramente, mi considero un cantante, chitarrista, compositore. In realtà, sentirmi dire che sono un chitarrista a livello... No, non lo accetto, non è giusto, per rispetto nei confronti degli altri. Sono altri chitarristi che meritano questo... questo nomignolo, insomma, ecco, di essere tra i più bravi, eccetera eccetera, ma io non ne faccio neanche una questione. Io sulla chitarra trasmetto delle mie emozioni, sono completamente autodidatta, non so una nota, non so un accordo, non so niente, suono ad istinto e basta. E prima si parlava di Steve Marriott, quando abbiamo parlato, ecco, è stato uno dei miei artisti preferiti inglesi, e io qualche anno fa ho perso il treno per andare a suonare al suo memorial, dove tra l'altro c'era Page e Plant dei Led Zeppelin, sì, che erano amici suoi da una vita, che perché sono arrivato in contatto con il figlio che organizzava il memorial con un paio di giorni di ritardo, e ormai era già tutto quanto definito. Io ho suonato in Irlanda con il suo armonicista, con il quale ha fatto tutta l'ultima parte della sua carriera blues, certo. Simon Hickling, e mi ha raccontato un sacco di cose. L'ho sentito anche per telefono poco tempo fa, gli ho detto guarda che se succede ancora un memorial vorrei essere chiamato, perché certo, piacerebbe veramente fare qualche brano suo arrangiato in chiave un attimino più blues o soul. Una cosa che ho letto molto bella, interessante, oltre all'episodio che tu hai citato, che giustamente... del 1993, quando sei salito nel palco di Montreux, che c'era B.B. King, un famoso episodio importante. Ah, lì c'era io che ero praticamente l'unico sconosciuto in mezzo ai big, c'era Van Morrison che doveva aprire il concerto di B.B. King e mi ha visto. Che tipo è Van Morrison secondo te? Noi lo conosciamo, un tipo molto scontroso, che un giorno fa un concerto di 50 minuti o poi un altro giorno fa di 2 ore. Ingestibile, esattamente. E praticamente io ero seduto nella saletta dei VIP con B.B. King e Claude Knobs, il direttore del Festival di Montreux, e lui invece era fuori dalla saletta e mi guardava per cercare di capire ma chi è quel cretino lì al che quale là danno lo champagne da bere lì con B.B. King, io non lo conosco e io sono qua fuori e sono Van Morrison. Sì, appunto. Allora io a quel punto lì ho fatto lo strafotente fino in fondo, perché lui mi ha veramente offeso con gli occhi, proprio nel senso, no? E quando sono passato ho detto adesso hai capito chi sono. Dopo aver suonato con B.B. King 1993. Grande, tra l'altro io sono un grande appassionato di Van Morrison. Anch'io. Io addirittura lo seguo dai tempi ancora dei Van, quando faceva "When I'm talking about my baby, you know where she came from", e via, capito? E via, gloria eccetera, eccetera, eccetera, no? Eccetera. E un'altra cosa interessante, tu hai fatto 5 tournée mondiali con Brian Auger. Sì. Parlami un momento, l'hai citato appena Brian Auger. Brian Auger è un musicista straordinario. Quello, quando suona Lemon di lui, non lo suona nessun altro, secondo me. La maniera che ha di suonare Lemon di lui è diversa dagli altri. Secondo me sì. Decisamente. Assolutamente sì. Perché lui ha mescolato il blues con il jazz, e dunque ha un linguaggio, ha una melodia decisamente diversa da tutti gli altri suonatori di Hammond. Ha un tocco diverso, secondo me. È quello che conta. È vero, è un dato di fatto. E d'altra parte, non a caso, è stato il punto di riferimento di molti hammondisti. Assolutamente. Cioè, Jimmy Smith, hai capito, certo. Brian Auger, eccetera, eccetera. Cioè, sì, sono perfettamente d'accordo. Questo è Van Morrison. Grande, va. Bene, adesso ritorniamo al tuo disco, a qualche pezzo, cioè il tuo disco, tu hai fatto questa compilation. Innanzitutto dobbiamo studiare una cosa, che Rudy ha scelto lui i pezzi da mettere nella compilation. Eh beh, e chi? Ma capita spesso e volentieri, e non che mi conosci bene allora. Adesso ti conosco. Capita spesso e volentieri che non è così, però tu ben lo sai. Comunque, io cerco di scegliere tutto quello che posso nella vita. Ti vedi proprio, sono molto esigente. Ti vedi proprio rappresentato in questi 40 anni di carriera in questo disco? Ma sì, ne avrei aggiunti altri, però è un doppio e di conseguenza non è che, cioè, alla fine io non ho fatto 300 dischi, capito? Non ho fatto neanche 40. Ma hai fatto tante collaborazioni, però. C'è anche i brani in italiano, certo. Ci sono i brani che ho dedicato ai Beatles in blues e via, hai capito? E prima si parlava, anche Van Morrison ha fatto con i Them It's All Over Now Baby Blue, sì. Ed è quello che... E adesso che la vivi, no one cares. No one cares. dopo. Questo no. È un brano. Vuoi che ti faccia ascoltare quello lì? No, è lo stesso. Questo è un brano. No, è perché siamo proprio in tema con Van Morrison. Sentiamo questo pezzo, dai. Perché qui c'è Robin Ford alla chitarra. Io non sarei mai stato capace di fare degli assoli così belli come i suoi. E devo dire che mi ha veramente emozionato. Perché intanto non usa il linguaggio suo blues jazz, ma un linguaggio diverso. E sono convinto che molti appassionati di Robin Ford, ascoltando questo assolo di chitarra o le note che fa nel brano, probabilmente non pensano che sia lui, invece è lui. Allora fai tu lo speaker, dai. Allora, It's All Over Now Baby Blue, Rudy Rotta, e special guest Robin Ford. Standing in the the cloak that you once wore. Strike another match, the ghost tired in you. And it's all over now, baby blue. And it's all over now, baby blue. It's all over, baby blue. And it's all over now, baby blue. Blue Radio Sera. Blue Radio Sera. Allora, prima di continuare devo salutare due persone. Andiamo in Emilia Romagna con Paolo Parmigiani, che è il nostro fedele ascoltatore, che ci ha deliziato con molte sue cose belle e anche buone da mangiare, e poi un artista, una cantante, Rudy, che verrà a trovarci dove sei seduto tu fra una ventina di giorni più o meno, forse un mesetto, insomma. Si chiama Marnit Calvi, che salutiamo con affetto e con un abbraccio e un bacio. Ciao Marnit. Allora Rudy, questa icona della musica, questo pezzo è un'icona della musica. L'hai rallentato e l'hai velocizzato a tuo piacimento, praticamente. E hai fatto giustamente una versione veramente incredibile, strepitosa. Al di là della chitarra di Robin Ford, l'idea di introdurre la chitarra di Robin Ford, di costruire il pezzo attorno, è stata un'idea veramente bella, interessante, perché non è riprendere un pezzo, è rifarlo a maniera tua, personale. È difficile rifare un mito, chiaramente, questo è un pezzo che è un mito, un'icona, però secondo me ci sei riuscito. Sì, ma i brani di Bob Dylan, come dicevo prima, si prestano più di molti altri brani di artisti ad essere arrangiati, perché lui è sempre molto essenziale nella sua musica, soprattutto all'inizio, certo, fino a un certo punto. Più importante della sua carriera, sì. Mentre, non lo so, che so io, un brano dei Beatles è molto più arrangiato, è molto più studiato e via via. Bob Dylan ha proprio una semplicità, innanzitutto, di accordi, non c'ha delle armonie complicate. Quello che arriva è proprio il messaggio della sua poesia, sì, mescolata con questa musica. Possiamo dire qualche volta, più che cantare, parla, sì, praticamente, soprattutto in questi ultimi anni. Esattamente, soprattutto in questi ultimi anni. C'è una certa età anche lui, bisogna dire. Parla, cioè, più che declama, possiamo dire questo, più che parla. Declama. Siedi qua. So fine, through the bumps of time, in your prime. And so. Then you. People call, say. Ma vedi, la cambi già, vedi? Seguendo il pezzo originale di Dylan, che è nel sottofondo, lo cambi già. Lo cambi già. Ah, sì, e questo è importante, secondo me. È fondamentale. Mi sembra anche giusto, mi sembra. Perché cercare di rifare. No. Giustamente, tu hai citato, sai, anche che oggi viviamo nel periodo delle tribute band. Sì. Non mi chiedere cosa penso delle tribute band. Cosa pensi delle tribute band? Vabbè, pensi qualcosa. L'ho già scritto su Facebook. Pensi qualcosa. Ma per fortuna che siamo in tanti ad essere tutti quanti d'accordo. Se poi dopo mi dicono che quello che suona nella tribute band c'ha la bolletta a fine mese da pagare e che facendo il clone di qualcun altro la paga, buon per lui. Ma insomma, le tribute band sono, dal punto di vista artistico, un grosso danno per quanto riguarda la musica, perché oltretutto tolgono anche lo spazio agli altri. Certo, certo. E di conseguenza un ragazzo giovane che magari ha studiato musica e che si presenta con una carriera davanti, che spazi gli possono restare se non quella di andare ad accompagnare il cantante di successo di Amici o di X Factor, oppure di suonare in una tribute band? Cos'altro gli resta? Nulla. Nulla. Che ci pensino sopra un po' tutti quanti, insomma, perché è una cosa molto grave questa. Questo succede in Italia, tu giustamente hai detto, ma all'estero ha un'altra mentalità. Sì, oddio, attenzione, le tribute band sono anche all'estero. Sì, però io conosco dei locali dove io suono regolarmente in Germania, che fino a 5-6 anni fa non facevano tribute band. Adesso, assieme a Chris Farlow, a Rudy Rota, o che ci può essere Eric Sardina, o ci può essere quello che vuoi te. Hai citato Chris Farlow? Sì. Citiamolo Chris Farlow, per i giovani che non lo conoscono. Citiamo chi è Chris Farlow. Beh, insomma, era il pupillo dei Rolling Stones. Aveva una voce bellissima e non so adesso. Spaccava tutto. Esattamente. E praticamente ci trovano le tribute band che fanno i Genesis, che fanno i Deep Purple, che fanno i Pink Floyd e via, eccetera, eccetera. Se uno ha una visione molto tollerante nei confronti della vita, cosa che non ho io, dice va bene che sia così. Io penso che è una cosa negativa, così come lo pensano in tanti musicisti, perché comunque tolgono spazio agli altri e non danno l'opportunità agli altri di crescere e di proporre eventualmente qualcosa. Già abbiamo le strutture di una nazione come la nostra che non contempla dei centri culturali dove i ragazzi possano provare, suonare, e soprattutto il palco che ti fa crescere. Se tu vai sul palco e ti confronti con gli altri, saprai quanto vali e dove devi migliorare e cosa devi migliorare. Se non è così... Il palco, la gente che ti sente, certo. È quello il fondamentale. E Rudy Rota come si presenta? Da solo o con la band di solito quando suona? No, io sempre con la band. Sempre con la band. Sì, sì, sempre con la band. Com'è la tua formazione, Rudy? Allora, tastiere che prevede pianoforte e Hammond, basso, batteria, io chitarra e voce, e in più sono anche le percussioni. Perché sì, da un tot di anni a questa parte io ho sempre amato la batteria, non sono un batterista, però faccio le mie percussioni, le faccio a modo mio, non traggo ispirazione o spunti da niente, le suono come mi viene di suonarle e mi va bene, tanto è vero, certo, che ho trovato anche degli endorsement molto importanti che mi hanno supportato, anche se non sono batterista. Va bene lo stesso. Beh, è una grossa soddisfazione, certo. Forse anche troppa. E il tuo rapporto invece con i tuoi fans? Ottimo, ottimo. Perché ho una fortuna. Quando tu sei un artista molto molto famoso, i fan spesso li hai perché tu sei famoso, non sempre perché regali delle emozioni a livello musicale. Mentre invece quando sei un artista di nicchia, i fans sono proprio lì perché apprezzano la tua musica sia su disco che anche dal vivo. Io ti posso dire che quello che facevo io a 20 anni, che sono andato fino in Francia per ascoltare gli Who e a Zurigo per ascoltare Frank Zappa, ho tantissimi ammiratori all'estero soprattutto che fanno 300-400 km per venire a vedere un mio concerto, magari sapendo che dopo 3 mesi suono a 50 km da casa loro, vengono lo stesso. Mi regalano delle emozioni incredibili, vengono spesso con dei bambini, mi fanno degli omaggi pazzeschi. Io spero e credo di poter contraccambiare con la mia musica, però credo che alla fine sono più loro che danno a me che non fa io a loro, perché è veramente emozionante questa cosa qua. E difatti ritengo, e lo dico sempre ai miei musicisti che a volte forse non riescono a interpretare questa cosa bene fino in fondo, che è un privilegio fare ciò che facciamo quando sei un artista. Quando sei un impiegato della musica, no. Vedi, discorso diverso, esatto, molto diverso. Esatto. Bello quello che hai detto comunque in merito, che forse tu ricevi di più che non quello che dai. Io penso di sì, perché quando vedo cosa fanno certe persone, dico... Non avrei mai pensato un giorno di essere a quel punto lì, di ricevere, cioè, quello che facevo io da ragazzino nei confronti dei grandi quando andavo a vedere suonare, certo, certo, i Kings piuttosto che gli Who o questo o quell'altro, capito? Vedo che loro lo fanno con me e non lo fanno perché sono Michael Jackson oppure sono questo, certo, o quell'altro, certo. Lo fanno quindi tu non rifiuti un autografo? Ma no, assolutamente no, io a fine concerto pizzico di polemica nei confronti di una nostra artista italiana. Ma ce n'è più di uno, sai, che fa roba del genere. Comunque no, io no. Dopo il concerto 10 minuti di pausa e poi vado fuori, sono pronto col pennarello a firmare tutto quello che devo firmare. Che bello questo. Ma deve essere così, se no sì, la semplicità, fai a meno di andare sul palco. Certo, certo. Sono pienamente d'accordo con te, Rudy. Maurizio. Sì, suoniamo qualcosa, Rudy. Quello che vuoi. Io? Sì, certo. Guarda, dal mio... Dal tuo disco, chiaramente. Dei Beatles. Ah, vai, vai. Was a man who thought he was a loner, but knew it couldn't last. Jojo left his home in Tucson, Arizona, for some California grass. Get back to where you once belonged. Get back, get back, Yoko. Get back to where you once belonged. So se hai beccato che ho detto get back, Yoko. Sì. Sì, e perché Paul McCartney ha detto, ha scritto sto pezzo, che forse è Paul McCartney il più blues dei Beatles, o piaceva a lui creare il blues nei Beatles? Cosa no, non penso che Paul fosse il più blues. Forse era anche più, se era John Lennon. Era più blues Lennon. Sicuramente, sì. Però ce l'aveva su con Yoko, quello sì. Sì, sì. E allora io adesso ho aggiunto Get Back Yoko. Yoko, sai che tutti gli ammiratori dei Beatles, sì, hanno sempre visto Yoko di malocchio, Yoko. La giapponese lì. Però non è vero. Perché Yoko ha dato molto a John Lennon, c'è poco da fare, al di là che molti, che tutti i fans di, no, dico, sotto, dici, le coperte, no, con loro, beh, non sotto le coperte non parlo, però, ma, non posso dire, però dal punto di vista solista, gli album solista, sì, sei d'accordo? No, non sei d'accordo? No, non lo so. Non ti piacciono gli album solista di John Lennon? No, come no? Non lo so. Ah, non lo sai quanto lei possa aver, di sicuro quando la vedo fare certi urli in certi concerti di John Lennon resto molto perplesso. Lo so. Aveva fatto un disco di urla, praticamente un solo suono, un pezzo, il famoso Two Virgins, esattamente. Però sai, c'è poco da fare. Get back, Yoko. Get back, Yoko. To where you once belonged. Esattamente, get back, Yoko. Get back è un grande pezzo. È la fase finale della carriera dei Beatles. Perché si è percepito il discorso che i Beatles dovevano finire, anche se Paul McCartney non voleva che finissero i Beatles. Cosa dici? Ma loro ormai erano già disuniti. Sì, erano già disuniti. Il resto devi pensare una cosa. Dimmi. Forse perché sono inglesi, la mentalità anglosassone probabilmente... questa qua, ragazzi. E quanta difficoltà è fare un pezzo di Beatles? Secondo me c'è tanta difficoltà, non è mica semplice. È difficile. È molto difficile, vero? È difficile. Difficile perché erano troppo, troppo perfetti in quello che facevano. Anche se registravano in diretta in studio, soprattutto fino a Rubber Soul, non è facile perché ci sono un sacco di finezze, di cose nascoste che non sempre le ascolti al primo colpo, neanche al secondo, neanche alla centesima volta. Io ancora oggi scopro delle cose che non avevo sentito. Dunque, senti qua queste belle campanacce, senti che bello che è. Tac, tac, tac, tac. Fantastico. Anche Ringo qualcosa poi doveva fare. C'è la voce di Lennon, ragazzi, che sì, che è mondiale. Allora, dicevi il discorso della fine dei Beatles. Loro erano già disuniti, andavano già in studio per conto loro, però qui si sono riusciti a tener botta per un tot di anni, essendo i numeri uno al mondo, sì, avevano una pressione ai quali pazzesche, tutti facevano riferimento, però loro stavano in studio, continuavano a lavorare, produrre musica, e sempre meglio, tra l'altro. Eh sì. Siamo arrivati alla fine quando hanno fatto Abbey Road o Let It Be, che ci sono delle cose che sono mostruosamente belle, e lì proprio è la casualità dell'incontro tra Paul e Lennon. Uno più musicista e l'altro più geniale. Certo. Le due cose messe insieme, quando Lennon si trovava alle 2 di notte con un brano e non riusciva ad andare avanti, chiamava Paul, andava a casa sua, gli diceva mi dai una mano ad andare avanti, e quell'altro gli diceva, però lo senti chiaramente il brano di Paul da quello di Lennon, lo distingui, non serve che loro mettevano Lennon McCartney per ovvi motivi, è un marchio di fabbrica, ma però si sente chiaramente la differenza, sì, tra uno e l'altro. Esattamente. Ma insomma sono veramente tanto importanti nella tua vita discografica e anche intima, insomma, i Beatles. Ma guarda, nella vita di tutti i musicisti, perché non esiste, diciamo così, settore musicale o tipo di musica classica, jazz, che non abbia rifatto i Beatles. Io, il mio brano, il mio disco è finito in America, ad Atlanta, e l'hanno suonato in una trasmissione molto importante, dove per mesi e mesi hanno fatto sentire tutti quelli che avevano rifatto in chiave blues o nera. C'erano tutti, da Jimi Hendrix a Stevie Ray Vaughan a Ray Charles, a Aretha Franklin, tutti ci sono che hanno fatto i brani dei Beatles. Non è un caso. cioè la costruzione armonica dei brani dei Beatles è geniale e hanno sconvolto il modo di comporre quando sono usciti all'inizio i Beatles, hai capito? Mm-hmm. Non c'era proprio quella visione, certo, lì, certo. Eppure loro erano figli del rock and roll americano, non erano, i Rolling Stones erano figli del blues, certo. Loro erno figli del rock and roll e di Fats Domino. Paul McCartney era un grande anche gli Everly Brothers, dice. Sì, anche esatto, quelli. Però guarda dove sono arrivati subito dopo aver rifatto il rock and roll americano, e anche bene, ragazzi, perché l'hanno fatto bene il rock and roll americano. Ma senti qua cosa ho fatto anch'io. Don't let me down, don't let me down, don't let me down. C'è poco da fare. Sei un grande, Rudy, c'è poco da fare, insomma. Bisogna dire quello che è, insomma, grandissimo, veramente simpaticissimo, ma soprattutto un grande artista. È un onore per avere la sua presenza qui questa sera a Blu Radio Veneto con Agostino Esplore, con Maurizio Calzavara e con il nostro fotografo, che poi tra l'altro fra pochissime ore sarà un nostro ufficiale nuovo collega, che salutiamo caramente. Ciao Gilles. E poi abbiamo in studio anche Cosetta Provazzi, insomma, che ci ha portato qui questo amico, possiamo chiamarti così, certo, insomma. Perché il discorso di stasera è un discorso aperto, Rudy. Parliamo di tante cose, ma parliamo di musica con la M maiuscola, quello è importante secondo me. Al di là di tutto, sempre la musica al centro. C'è la musica vera, poi la musica vera. Dopo diventa soltanto una questione di gusti. Certo. C'è chi dice a me piacciono i Pink Floyd, a me non piacciono. C'è chi dice a me piace Zappa, a me non piace, eccetera, eccetera, e via via. Però in realtà lì diventa solo una questione di gusto. Mentre riconoscere arte in questo artista è una cosa che è di nostra competenza, nel senso che ognuno di noi sa perfettamente che James Taylor è un grande cantautore, non serve specificarlo, hai capito? Cioè, voglio dire, che il tale è un grande chitarrista o che il tale, hai capito? Cioè, la differenza la fa la personalità a quel punto lì, no? Sì. Aggiungere qualcosa a ciò che il passato ci ha già dato è molto difficile, se non improbabile o forse impossibile, ok? Abbiamo avuto tutto, abbiamo avuto il rock and roll, il rock che si è mescolato con la musica classica, il rock che si è mescolato con il jazz, con la musica folk e via. Dove vuoi andare? Non è un demerito di quelli di adesso, gli Oasis, poverini, cosa vuoi che facciano se non cercare di assomigliare in qualche modo ai Beatles? Non potranno mai assomigliare ai Beatles, per il motivo che dicevo prima, perché i Beatles suonavano fino alle 2 di notte ad Amburgo o a Liverpool, hai capito? E ad Amburgo non sapevano neanche dove andare a dormire dopo il concerto, dovevano trovare delle fans per andare a letto con qualcuno per poter andare a dormire. Questa è la sostanza. Perciò lì veniamo veramente dalla gavetta, e la gavetta ti insegna tutto, ti insegna. Eh sì, questo, capito? È verissimo. E cosa di John Lennon cosa ne pensi? John Lennon era, lo adoro perché nonostante il successo e tutto quanto, fino a quando è morto ha sempre mantenuto una certa, tra virgolette, cattiveria e grinta. E poi senti che melodie. Cioè, una persona che scrive un pezzo come questo qua deve avere un cuore grande come una casa. Senti. Che poi dopo facesse la testa da puntini puntini quando voleva lui. Quando girava con Eddie Lisso per le strade di New York. Vabbè, piuttosto di quelli che accomodanti che vogliono andare d'accordo con tutto il mondo, preferisco Lennon. Ma lui era così. Lui era scomodo. Era scomodo, assolutamente scomodo. John scomodo. Lennon. Era un personaggio scomodo. Ne sa qualcosa, tutti i dossier che hanno fatto contro di lui. Era un personaggio scomodo. Beh, poi dopo non dimentichiamo che Lennon è venuto al mondo in una situazione molto pesante. Sì, vero. Il papà che sparisce. Certo. La mamma che non aveva tempo per lui e che muore, resta con la zia. Con la zia, esattamente. Cioè, certo. Io sono stato anche qua, io sono nato al Festival di Beatles a Liverpool. Sono stato Newcastle Road dove lui viveva con la zia. Una casa proprio, voglio dire, molto umile, molto, molto modesta, eccetera, eccetera. E lui di conseguenza, quando prima di diventare famoso con i Beatles, saliva sull'autobus e diceva alla gente: ma voi sapete chi sono io? Io sono John Lennon. E allora chi è? E dopo invece ha fatto vedere chi era. Cavallo di razza. Eh sì. decisamente. C'è un'altra, eccomi qua, c'è un'altra domanda per te, Rudy. C'è Antonella che chiede, anzi il marito più che altro, dice: cosa ne pensi di Bruce Springsteen? Il boss. Il boss. Ma guarda, non hai citato il boss. Non è tra i miei favoriti. Mm. Mm-hmm. Però grande rispetto, perché per come lo vedo io sul palco è un vero, cioè in America l'hanno sempre definito come il cantante dei camionisti per il suo modo di essere. Devo dire la verità, questa non lo sapevo, sì. Non conosco molto bene le sue cose acustiche che ha fatto, che credo siano molto interessanti. Comunque non si discute, non è tra quelli che ascolto io, ma grande rispetto e stima per uno come Bruce Springsteen, cioè, non possiamo discuterlo, no? Certamente no, possiamo rispettare 3 ore e mezzo, certo, sotto l'acqua a Firenze, senza muoversi, sempre rimasto io sotto l'acqua a Firenze. Io sono figlio di altra musica, ma insomma, sì, certo, grande certo. rispetto, ecco, la cosa che più mi piace di Bruce Springsteen è l'amalgama che c'è con la band. La band, quelli della band non sono comprimari, cioè sono comprimari con lui, non sono dei session man che accompagnano lui e poi accompagnano. Mi piace molto vederli, li ho visti a un David Letterman show prima di Natale qualche anno fa, e mi è piaciuto molto lo spirito che hanno anche in studio quando registrano, perché sono partecipi del prodotto e non sono dei musicisti che suonano a comando. E sono dei grandissimi musicisti. Molto bella questa cosa qua, ed è un merito suo questo, senz'altro. La Street Band. Sì, Street Band. Grande band. C'è quel pezzo che hanno messo all'interno di We Are The World, nel disco di We Are The World, che è Trapped, si chiama, che mi piace veramente un sacco, mi piace moltissimo quel pezzo là. Beh, torniamo a Rudy Rotta, esatto. Suoniamo qualcosa, Rudy, dai. O se no fai sentire qualcosa dal disco. Di scaletta cosa abbiamo, Agostino? Adesso abbiamo No One Cares, che abbiamo saltato. No One Cares, che è un brano che ho scritto per la tragedia delle Torri Gemelle. Ecco, ce ne parliamo un momento, visto che l'anniversario è stato pochi giorni fa, cioè esattamente 2 giorni fa. Allora, è una cosa che mi ha colpito particolarmente, perché io quando avvenne il fatto ero in giro per la Valpolicella con la mia mountain bike. E a un certo punto avevo una gomma davanti che era un po' sgonfia. Vado giù dal mio amico del distributore, il quale mi guarda e mi fa: Rotò, ti che ti vedi sempre a suonare in America, e tu ho visto che ha tirato le torri a New York. E io ho pensato che fosse veramente uno scherzo, no? E difatti l'ho preso come uno scherzo. Poi parto, vengo a casa e con ancora questa frase nelle orecchie accendo il televisore, e la prima cosa che vedo sono proprio le Torri Gemelle con il fuoco, ed è una cosa che, cioè, mi sembrava di sognare. Ho detto: è impossibile che possa succedere una cosa del genere. Poi dopo, in seconda battuta, ovviamente la tragedia a livello umano, perché prima c'è il fatto dello spettacolo, sì, che mediatico, hai davanti, esatto, a tu, ecco, esatto. E poi dopo hai pensato a tutte quelle povere persone che vedevi, certo, cioè, incredibile, cioè una cosa che non avrei mai immaginato, e che dimostra la cattiveria che l'essere umano riesce ad avere, perché per arrivare a un punto come quello di colpire delle persone che non conosci neanche, appunto, vuol dire proprio essere non so cosa, dei mostri, proprio dei mostri. E quindi hai avuto l'ispirazione, hai scritto questo pezzo praticamente. Sì, proprio spiegando anche le varie sensazioni da chi piangeva a quelli invece che bruciavano le bandiere americane e urlavano di gioia per la soddisfazione di aver fatto questo massacro. Io non sono politicamente schierato, e questa cosa qua mi ha sempre fatto pagare un prezzo, perché molta gente, soprattutto in Italia, è schierata politicamente o di qua o di là. Io non lo sono, perché comunque una frase scontata e banale, la politica mi fa veramente schifo, perché viene fatta da persone che non rispetto e che, se dipendesse da me, sarebbero tranquillamente ai lavori forzati su qualche spiaggia da ripulire dalle bottiglie di plastica e la sporcizia. Questa è l'opinione che ho io dei politici, finché non mi dimostrano il contrario, ma non è possibile, perché sono dentro in un meccanismo che è così e basta. Perciò ho poco da dire, ho poco da aggiungere, ormai la conosciamo tutti quanti, stiamo andando sempre di più verso il, non lo so, il peggio. Vedo che non, di giorno in giorno si continua a peggiorare, non c'è più rispetto per nulla, tutti fanno tante parole, l'ecologia, il pianeta, questo e quell'altro, invece in realtà tutto sta andando a rotoli. Beh, sì. Allora, per chiudere il discorso su Bruce Springsteen di prima, quindi salutiamo Davide, spero che Rudy ti abbia soddisfatto nella sua risposta, e poi ancora c'è da salutare Paolo, che è uno chef che ti sta ascoltando e ti fa i complimenti. Grazie. Quindi se vogliamo andare a mangiare qualcosa andiamo da lui, va bene? Come no. Prendete il numero di telefono. Sì, abbiamo tutto. No. Agostino c'ha tutto. No, io no, comunque insomma, basta. Insomma, c'è Facebook, è una cosa straordinaria perché puoi comunicare con tutto il mondo, insomma, quindi certo. È bellissimo, poi fai delle amicizie che poi magari non ti vedrai mai, però hai un affetto. È vero, sono d'accordo. Io ho fatto amicizia con Cosetta, per esempio, insomma, siamo diventati amicissimi, però ci siamo anche visti adesso, vero Cosetta? Va bene, allora adesso ci ascoltiamo quella canzone dedicata a 2 giorni fa, insomma. Sentitela bene perché ci sono degli effetti che sono stati aggiunti. Ok. Airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. Oh, the next building is another one. Oh my God! Praying on their knees, silent screaming. Can you hear those people breathe? Dusty tears are tumbling down, tears are tumbling to the ground. No one listening, no one cares. Empty silence, no one there. People laughing, people dancing in the streets. People dying, hear them crying, hear them bleed. Silent tears are tumbling down, tears are tumbling to the ground. No one listening, no one cares. Empty silence, no one cares. Thank you. acting. We've got, we're going to put that tape on in just a second. Here, we're about to roll it now. If you can, sir, I don't want you to speculate, but if you can, give us an idea of what you think might be at play here. What kind of plane we're talking about, or at least what size. If we're talking about one that would hold, say, 100 people, one that would hold 300 people. From the, what you see, if we can back the tape up further than that, guys. Here we go. Very hard to get a perspective on it. I don't know how far away we are. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. A parte, come dire, l'emozione fortissima nel sentire queste voci che stavano vivendo in questa tragedia, insomma, quindi ti viene sempre la pelle d'oca quando le risenti, anche quando certo. le vedi. Ma come hai fatto? Cioè, hai preso queste voci da qualche registrazione che ti è dalla televisione, quelle cose c'è lì? La voce di Bush, c'è la voce del commentatore televisivo che dice "Oh God, un secondo aereo è entrato nelle Torri Gemelle", cioè in diretta, eccetera, eccetera, certo. Sì. Quindi poi invece ovviamente quelli che sono gli effetti degli elicotteri che arrivavano, delle ambulanze, della polizia, quelle le abbiamo prese normalmente da li trovi, insomma, non sono quelli della giornata delle Torri Gemelle, ovviamente di quel giorno lì. Senti, questo è tu hai parlato prima The Next Building. Esattamente. Tu hai parlato prima del rock inglese e c'è una cosa molto interessante. Quando hai fatto i concerti in Inghilterra, la BBC ti ha chiamato per fare uno speciale da loro. La BBC, quindi mica è una rete qualsiasi. Sì, anche l'archivio del blues di Oxford. Credo di essere, almeno all'epoca ero l'unico europeo, a parte gli inglesi e gli americani, con tanto di interviste e di filmati del concerto, e il giorno dopo, davanti alla classica tazza di tè inglese, l'intervista per l'archivio blues di Oxford. E io sono andato con una tremarella incredibile a suonare in Inghilterra, perché avevo paura innanzitutto per la lingua, certo. Comunque parlare al microfono con loro, poi loro sono molto esigenti quando sentono una parola che non suona come dicono loro, certo. E via via. Allora mi sono un po', a un certo punto ho detto: ragazzi, primo concerto a Oxford, Old Brew House, ho detto vabbè, io ho sempre solo ascoltato musica inglese fino a un certo punto, e di conseguenza non capisco per quale motivo voi siate qua così numerosi ad ascoltare un italiano che viene qui a fare una musica che voi avete fatto molti anni prima. Comunque cercherò di dare il meglio di me stesso. La serata è andata bene al punto tale che poi alla fine si sono presentate due signore, neanche ragazzine, a farsi firmare il seno, e ho detto vuol dire che qualcosa di interessante è successo. Come si faceva una volta, praticamente. Questo lo facevano i Rolling Stone, Stones. La specializzata era Keith Richards, Mick Jagger, fa ste robe. Okay. Perciò devo dire che pensavo che fossero più prevenuti, invece ho trovato molto più prevenuti i francesi, per esempio, meno i tedeschi, ma io in Inghilterra mi hanno aperto la prima Fender firmata, me l'ha fatta fare l'artist manager della Fender Europa, che era il pezzo da 90, cioè quello che andava a casa di tutti i chitarristi inglesi a dire come la vuoi la tua strato, eccetera, eccetera. Mi ha portato gli amplificatori, mi ha portato le giacche, mi hanno portato tutto e via via. Ho fatto il festival di Cole, ho fatto il festival dei Beatles a Liverpool con il sindaco che è venuto a stringermi la mano. A me a Verona non è mai venuto un sindaco a stringermi la mano, per dirtene una. E dunque, grande, ecco, in Inghilterra si fa fatica a vivere con la musica, perché non pagano, perché i musicisti, passatemi questa espressione, sono molto meno fighetti di noi italiani, che se non abbiamo la camera così, questo o quell'altro, loro suonano. Quello capita. Ed è per quello che hanno prodotto tutto quello che hanno prodotto. Se tu pensi, prima si parlava dei Police. Sì. I Police sono stati chiusi in un sottoscala, in una cantina, dove mangiavano, dormivano e suonavano dalla mattina alla sera per un anno. E poi sono venuti fuori, hanno registrato e sono diventati quelli che sono diventati. La gavetta. È sempre quella, esatto. Quello è il discorso. C'è poco da fare. Gli inglesi intanto hanno anche una fede e un credo superiore a quella che è la nostra. In Italia si tirano sui pantaloni molto in fretta a livello artistico pur di raggiungere il successo, tutti quanti, o quasi tutti. In Inghilterra non è così, ed è per questo che hanno partorito i King Crimson, hanno partorito i Genesis. Hai citato i King Crimson? Cosa li adoro. Ah, li adori. Ero su Facebook poco tempo fa con Greg Lake. Cosa ti ha detto? Gli ho detto, ti aspetto in Italia, vieni. E dice, vediamo, stiamo cercando di mettere giù qualcosa in Italia di concerti. Lì siamo tra i miei preferiti in assoluto e sono i più distanti dal blues. Certo, molto distanti. I King Crimson sono proprio... Anche se Robert Fripp, tu mi insegni, è un pazzo musicalmente, cioè uno che sa fare di tutto. Certo. Aveva creato il Fliptonic, famosa macchina infernale sua. Certo. Quindi, però sono molto lontani dal blues. Anche se il primo, The Kurt Hawkinson Cream, è schizofrenico al massimo, è qualcosa di blues, cioè, secondo me. Sì, comunque, primo album. La risposta era appunto, per completarla, era quella che avevo accennato con i Beatles. Sì. I Beatles, nonostante il successo, e nonostante tutto, non si sono mai disuniti, hanno continuato a lavorare. Se tu guardi, di disco in disco sono migliorati e sono cambiati sempre. Non hanno riproposto mai un disco simile a quello precedente. Sono andati avanti tantissimo. E questo vuol dire amore per la musica, dunque vuol dire umiltà. Con i fatti. Madonna. Vedi, vedi, questo è un classico, e più non si può. E però tu hai detto un'altra un cosa disco, comunque. Qualche minuto fa, che hai visto gli Who. Adesso mi racconti un momento. Due volte. La prima volta mi interessa. La prima volta c'erano tutti e quattro gli originali, perché per me sono quelli gli U. E quelli erano gli U. Senza Kate Moon alla batteria. Senza Kate Moon già perdi un sacco. Chiaramente sì. E li ho visti a Zurigo, io avevo 17 anni. E ricordo una delle cose più incredibili. Tu pensa com'era la Svizzera in quegli anni, dove una bicicletta non veniva rubata, dove non succedeva mai nulla di negativo, no? Almeno apparentemente, lasciamo stare le banche. Non c'entrano. Esatto. Praticamente arrivano gli Who a Zurigo e a un certo punto sul palco incominciano a spaccare gli amplificatori, incominciano con le bombe le bombe fumogene che cominciano a fare gli effetti. Davanti al palco la Securitas svizzera, che era abituata probabilmente a fare da guardia alle vacche, alle mucche nei campi, si trovano questi quattro disperati sul palco, non capiscono più niente, vanno in tilt. Due di questi qua salgono sul palco per interrompere tutto quanto, perché vedevano che c'erano le chitarre rotte, gli amplificatori per terra, il fumo, questo quell'altro. Pete Townshend ne prende una di queste qua così, di forza, la butta verso il pubblico, ma la conclusione è geniale. Non, per l'amor del cielo, i ragazzi non devono prenderlo come esempio. Assolutamente no. Kit Moon che tira questo qua dietro i pezzi della batteria. Incredibile. Cioè, una delle cose. E poi li ho visti nella famosa arena di in Francia, de Fréjus. Arena Fréjus, che c'era già il grande batterista degli Small Faces, certo, che è Kenny Jones. Sì. Non erano più ovviamente quegli Who così scatenati come inizio, però è sempre un gran concerto anche quello lì. È un grande gruppo in ogni caso. Sì. Rudy, l'Antonella ti chiede, sì, ma hai qualcun altro che ti manca, diciamo, all'appello, che vorresti, con cui vorresti fare un duetto? Tantissimi. Fai qualche nome con chi ti piacerebbe, quantomeno, insomma. Ma tantissimi. Cioè, se parliamo di blues, per esempio, io sono arrivato troppo tardi, altrimenti, vabbè, Muddy Waters, tanto per dirne una, Freddie King in assoluto, Albert Collins, parlando di chitarristi, con Stevie Ray Vaughan ho fatto una session. Riuscito a fare qualcosa, sì. Ho fatto una session, poi un Double Trouble ho suonato diverse volte con lui, una cosa molto veloce a Lentons, allora era l'83 o l'85. Poi, se parliamo invece del mondo della musica rock, vabbè, insomma, a parte i Beatles, cioè, se potessi salire sul palco e fare una canzone con Paul McCartney, penso che e poi mi dicessero, a questo punto vuoi morire oppure devi morire, vabbè, muoio. Ecco, tanto per dirne una, no? Quindi... Ma sono tanti veramente, guarda. Keith Richards, per esempio, dei Rolling Stones, è un personaggio molto molto interessante. Hai letto la biografia? Sì. No. Life. No, però ho sentito quello che ha scritto, immagino. Ma sono veramente tanti, perché quando io avevo 20 anni, e per me erano tutti quanti dei miti, perché riuscivano a fare delle cose dove noi non saremmo mai potuti arrivare, Anche l'Italia stessa, in quegli anni, negli anni, fine anni 60, primi anni 70, tutti i gruppi che ha partorito erano tutti quanti frutto di un, di così, di copie delle band, gli Yes, King Crimson. Se metti insieme gli Yes, King Crimson, Jethro e via via, hai poi l'immagine di quello che erano i gruppi italiani che giravano in quegli anni. Ma era inevitabile essere influenzati, sì, da questi. Sì, ma il prog italiano è un bel prog. Sì, ha avuto un periodo, è forse il periodo più felice della musica italiana. Certo, certo. Esiste oggi un prog in Italia? Esiste in Giappone, sono molto amati, beh tu lo sai sicuramente, molti gruppi prog che in Italia ormai non esistono più, sono molto amati in Giappone, sono richiesti, vedi Banco soprattutto, le Orme, sono molto amati, diceva un ragazzo che deve venire qua fra qualche mese, che i Jumbo era un gruppo di Milano che faceva una prog, in Giappone hanno richieste continue per andare a suonare, ma hanno, il batterista non suona più. Cioè il gruppo si è sciolto, che il batterista non esiste più come musicista, e hanno richieste continue. I gruppi prog sconosciuti in Giappone sono stati ristampati tutti i dischi di gruppi prog. C'è proprio un acculto della musica prog italiana in Giappone. Certo. E quindi è una cosa positiva. Adesso però mi devi fare qualcosa dal vivo. Voglio sentire tu, la tua carica, la tua voce, insomma, allora, la tua grinta. La vogliamo. Facci qualche pezzo. Dal disco appunto Blue Inside. Questo brano Lady, poi dopo tu cosa fai? Lo metti su? Va bene, se vuoi io lo faccio un intro. Lady move me in the morning, lady move me all night long, she move me through my backbone, she make a weak man strong. Pretty little baby rock me, rolling like a rolling fire. Pretty baby rock and roll, she filled me with desire. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, desire. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Probabilmente un granellino di polvere. Un granellino di polvere, sicuramente. Qualcosa, insomma. Esatto. E poi l'abbiamo rimessa solo, insomma. Quindi era perfetto. Essere disco tedesco deve essere perfetto. Sigliasco. Ne approfitto per salutare una cara amica. Ciao Serena, un abbraccio e speriamo di rivederci presto con una prossima tua produzione con i Deja, ovviamente, insomma. Quindi un bacione. Lady è il singolo dell'album. Sì. Sì. Io devo farti una domanda in merito. Perché hai cominciato con questo coro gospel? Allora, perché io amo il gospel, sì, e quindi sentire questo pezzo con... Ho collaborato con Robin Brown, che è veramente una cantante, un musicista incredibile, che ha questo gruppo di gospel, che viene spesso in Italia, e una mattina mi sono svegliato, e come spesso accade, o quando non riesco a addormentarmi di notte, o quando mi sveglio presto la mattina, la mia mente comincia subito a ragionare in funzione della mia musica, e ho pensato, così mi è venuta questa idea di mettere prima dell'entrata del brano questo coro gospel che dicesse Lady Move Me in the Morning. Tu pensa che ho avuto una soddisfazione incredibile nel concerto che ho fatto per la distrofia muscolare 15 giorni fa al Teatro Romano di Verona. 40 ragazzini con la maglia con scritto sopra "Io sto con Rudy", che mi hanno fatto questo coro qua. Che bello, meraviglioso. E non solo questo brano qua, anche questo qua. Sono andato in chiesa con un amico, un fonico, abbiamo registrato in diretta. Esatto. Si sente il reverbero della chiesa. Le dita che schioccano. Lady, sì. Lady, move me in the morning. Lady, move me all night long. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Io l'ho trovato veramente splendido, sia l'intero pezzo, ma soprattutto questa intro che è fatta in questa maniera. Infatti mi incuriosiva questa faccenda. Sì, Robin, ho detto guarda Robin, io la sento così, sono messi lì, hanno fatta al 3, e pensa che non sono poi mai più riuscito a darle questo disco perché non l'ho più vista. Ah, no, magari ci sta ascoltando. Devo cercare di rintracciarla, lei vive ad Atlanta, io sono stato a trovarla ad Atlanta. E sono orgoglioso di questo brano, proprio perché c'è un intro che quando lo sento mi dà delle emozioni fortissime. Sì. Il gospel entra nell'anima. Chi è questo immondista? Questo qui? Non lo so, devi chiedere a Maurizio. Chi è che ha fatto il jingle qui, Maurizio? Come il jingle? Ah, questo qua. Ah. Non lo sai. Io sono arrivato dopo. Cioè, vabbè, adesso. Non lo so. Vabbè. Semplice curiosità. Chiederemo, poi ti faremo sapere. Va bene. Esattamente. Bene, bene. Tu hai detto a me prima, microfono spento, che vuoi finire con un grande pezzo blues. Difatti hai accordato o scordato. Sì, però non hai una buona memoria. Mm. Perché tu poco prima mi hai parlato di Carrie Bell. Eh sì, esatto. Che praticamente con il quale ho fatto dei concerti. Citiamo chi è Carrie Bell, chi non lo conosce. Uno dei mitici armonicisti di Muddy Waters. Mm. Armonicista elettrico. Sì, esattamente. Sì, esatto, Chicago Sound proprio. Mm-hmm. Carrie ha registrato l'assolo di armonica nel mio Sody Blues, sì. E Mama Save the Children. Ci vorrebbe una puntata intera per parlare di lui. Delle sue cose, del delle suo modo sue cose, di vivere, delle curiosità, esatto. Soprattutto del fatto che Carrie era uno che si scolava una bottiglia di whisky prima di salire sul palco. E di conseguenza c'era qualche altro che lo faceva un tempo fa, era Gianna Nannini, che aveva anche lei una bottiglia di bourbon, sì, sul palco. Sì, vabbè, ma io sto parlando di Carrie Bell, no, non di Gianna Nannini. C'è chi c'è il bourbon, c'è chi c'è il vino, anche come i Guccini. Le Guccini aveva il Sangiovese. Non confondiamo le due cose. Non confondiamo le due cose. Ok, parliamo di questo musicista straordinario. Lui praticamente quando ha fatto "Dammi una nota che mi porti via, sopra le nuvole. Io voglio andar via, baby. Io vivo di blues, ho bisogno di blues, eh sì, allora praticamente sì. La leggenda racconta che Carey, prima di arrivare al Teatro Romano con Zora Young, dove io ho presentato il disco, tutte le sere in giro per l'Italia arrivava sul palco che era un po' su, sì. E aveva sempre questa bottiglia di Johnny Walker da qualche parte. Allora gli dico: guarda Carey, tu mi devi fare una promessa, dimmi, al Teatro Romano tu devi venire sul palco senza bere prima e io farò di tutto perché tu non riesca a trovare una bottiglia, eccetera eccetera. E difatti l'ho tenuto sotto controllo per tutto il tempo immaginabile, fino al momento in cui io sono salito sul palco e lui non era con me. A un certo punto l'accordo era: Carey, a un certo punto io parto, senti, faccio due strofe di canto e a quel punto lì c'è il tuo solo di armonica come sul disco. Certo. Tu hai un microfono, un radiomicrofono, sei lì e praticamente parti con l'assolo e vieni avanti e entri. Un boato, immaginavo io, no? E avevo controllato dappertutto che non ci fosse la bottiglia di Johnny Walker. A un certo punto io vado sul palco, parto con il brano, arriva il momento, io non mi giro neanche a guardare perché avevo una tale paura, finisce, non sento l'armonica, vado avanti e vedo un'ombra, con la coda dell'occhio vedo un'ombra che sta venendo verso di me, io guardo dritto il pubblico e penso: questo sarà lui, ma perché non suona? Si avvicina, quando è a un metro e mezzo, due, vedo, anche se non lo sto guardando, che è lui, mi arriva nell'orecchio e con un alito della serie, se accendo se un fiammifero, saltiamo tutti per aria, mi fa: in che tonalità è il brano? Perfetto. Ciò nonostante la gente era in delirio, perché vedere questa sagoma che viene dentro... What is it, Rudy? Non sapeva cosa. Senti, Rudy, ti chiedono cosa ne pensi di Katie Melua. Di? Katie Melua. Non la conosci? Scusatemi. Non la conosci. Ma dice, lei nasce dal blues, ma lo fa in modo molto moderno. Non la conosci? Insomma. No. Insomma, un po' di gente attuale li conosco anche, ma cosa fa? Che genere di musica fa? Pop o fa musica rock? Per me adesso fa musica pop. Anche se parte del blues, per me adesso fa musica pop. Ma lei da dove viene? Musicista che... penso che... cioè, il successo l'ha avuto in Inghilterra, in ogni caso. Puoi sentire un pezzo? Senti. How can I think I'm standing strong, yet feel the my feet? How can happiness feel so wrong? Che ne pensi? Pop è un pezzo pop. Non pop. Do nessun giudizio. Non è il tuo genere. Non rientra nel genere, nella cultura della mia musica. Beh, io ho scelto questo, poi magari ce ne sono degli altri. Sì. Che magari, quindi, lei diceva che nasce dal blues, quindi voleva sapere se tu, essendo... Ma cos'è, inglese o americana? E questo non te lo so dire, credo sia americana. Sì, americana, penso sia americana. Anche però il successo l'ha avuto abbastanza bene in Inghilterra. Guarda che gli americani comunque quando arrivano al successo... E invece abbiamo sbagliato. A parte inglese? No, è nata nella Georgia russa ed è cresciuta a Londra. Insomma, inglese praticamente. No, ce lo fanno sapere. Gli americani di solito quando arrivano al successo sono tutti quanti molto bravi. Io ho soltanto una persona... che non ritengo brava e che sono nonostante diventata famosissima in tutto il mondo, ma tutti gli altri, piacciono o non piacciono gli americani, quando arrivano al successo sono tutti quanti preparati e bravi. Certo. Cioè non si discute. Senti Rudy, ti metto alle strette. Dimmi. Sei a casa da solo e devi scegliere tra i dischi, cosa ascolti? Non tui. Dipende dall'orario. Uh-huh. Io non ascolto mai la mia musica. Qualsiasi orario del giorno scegli. devi scegliere. Eh no, perché alle 10 di mattina potrei mettere su un brano alle 4 del pomeriggio, o dopo aver mangiato un altro, alle 3 di notte metterei su il brano dei King Crimson che ho messo su prima. Il corto King Crimson Cream. Quello era il Talk to the Wind. To the Wind. Sì, sempre, sempre da quell'album. Sì, lì, sì, era sempre. Era lì, ragazzi. Era da roba, del Crimson King. Ecco. Non lo so. E c'era lei che l'ha. Io ho una discografia talmente ampia che potrei mettere su di tutto. Se vai in un'isola deserta, la famosa domanda è: ti porti tre dischi? Cosa ti porti? Tre dischi? Solo tre. Siamo limitati. Tre. One, two, three. Mi porto via, beh, senz'altro, i Beatles, come faccio a sceglierlo? Rubber Soul, Revolver, Sgt. Pepper's, The White Album. Sei White Album, che è doppio. Sì, apposta. Una roba, sono già due. Roxy and Elsewhere di Frank Zappa, quello dal vivo, il doppio. Doppio dal vivo. Senz'altro. Sei un zappiano? Sei un zappiano? Alla grande. Sì, non si può non essere zappiani su certe cose. Il più grande genio del rock è stato Frank Zappa. Sì, non ci sono dubbi. Certamente. E porterei via senz'altro, forse addirittura il primo di Hendrix, Are You Experienced? Grande quello. Più ancora di Electric Ladyland, che pure è un capolavoro. Capolavoro assoluto. E basta, li ho già detti? Sì, tre li hai già detti. Hai citato due. Un chitarrista. No, ma non puoi essere così sadico mandarmi su un'isola. Ma mi dai almeno una bella donna con un'isola? No, solo il sistema, la macchina per sentire i dischi. Basta, solo quello. Assolutamente. Sono tanti, sono troppi. Mi piace troppa musica. Certo. Abbiamo... Il live dei Colosseum, per esempio. Non hai mai citato tu che sei batterista John Heisman? Perché, no? Perché non lo citi? Uno dei miei preferiti. Perché non lo citi? Io ho suonato con Dick Exosmith. Ah! In Germania e in Inghilterra. Eravamo molto amici e purtroppo se n'è andato nel momento in cui avrei potuto fare qualcosa con lui anche a livello di registrazioni. Uno dei miei gruppi preferiti, il Colosseum Live. Prima ho parlato di Chris Farlow, comunque. Sì, certo. Clemson purtroppo è arrivato dopo Eric Clapton. Lo so. E dunque all'inizio era un po' una sua copia. Grande chitarrista, grande band e grande musica. E lui era il batterista che stranamente era il leader della band, era proprio davanti, come se... Era davanti, davanti. L'ho visto a Modena e sono rimasto a bocca aperta. Sì. Cos'è che volete sentire adesso? È un finale a tuo piacimento. No, io direi se tu, Rudy, sei d'accordo. Volevo far ascoltare la canzone che apre l'intero lavoro di questa tua raccolta di successi, che si chiama... Look Out Your Window. Bravissimo. Ecco, siamo tu lo sai tutto, sei preparato sul tuo disco. Ho fatto la scaletta, dimenticando questo brano molto significativo per me. Allora, se tu sei d'accordo, dicevo, fare ascoltare questo disco qua. Certo. Torniamo in studio. Sì. Diciamo dove si può acquistare il disco, il tuo sito, le tue pagine Facebook e quant'altro. Se vuoi dare il numero di telefono a qualche bella donna che ti vuole contattare, rudirotta.com. Ma c'è lo diciamo dopo, diciamo dopo. E i prossimi concerti e quant'altro. E poi ci saluti proprio con un puoi fare anche un purpurì, un middle, chiamalo come vuoi, di tante belle canzoni che tu ne hai veramente tantissime. C'ho un'accordatura adesso blues, in solo non ne posso fare tante. Comunque vai. Quello che puoi fare tu, quello che vuoi tu. Allora, intanto ci ascoltiamo. Allora, intanto ci ascoltiamo questa canzone che apre, come dicevo, la sua raccolta di successi, il suo Greatest Hits, My Music and My Life, dove dentro c'è Robin Ford, John Mayer e in The Blues Breakers c'è Peter Green, Brian Auer, insomma c'è veramente un cast straordinario, e ci ascoltiamo questa Look Out Your Window, una raccolta di successi che rappresenta i 40 anni di questo, posso dire, enorme, grande artista che si chiama Rudy Rota, che abbiamo avuto il piacere di avere qui questa sera, e due ore sono volate in una maniera, e poi sei simpaticissimo, quindi ci sarà un bis. Bene? Va bene. Ascoltiamo la canzone. Look out your window. your door. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qua, sono le 23, passate da 8 minuti di questo giovedì 13 settembre 2012, un giovedì che resterà nella nostra mente per la simpatia di questo grande artista. Io ti devo fare, te la faccio, cioè, io te la giro la domanda, non te la faccio io, sì. Ma c'è qualcuna che vuol sapere se sei carino? Che vada sul mio fisicamente. Sito, allora di sicuro posso dire che non ho più 20 anni, neanche 30, neanche 40, mm-hmm. Dunque questa è la cosa. Poi non sta a me giudicare questo assolutamente, e comunque non è una cosa alla quale tengo in particolar modo, così come non tengo a essere famoso, ma casomai preferisco essere bravo, certo. E meno famoso, certo. Però potrei girare io la domanda a lei, e lei com'è? Lei è molto carina, te lo posso garantire. Sì? Sì, sì. Allora, che vada sul mio sito, c'è la mia email, che scriva pure, che mi scriva, oppure su Facebook. Ecco, sì. Te la passo come amicizia, va bene? Me la passi come amicizia e... Sarà rossa, rossa come un pomodoro adesso? No, non rossa di capelli però. No. Ah no, no. Bene, bene. Poi tra l'altro è anche una tua collega, quindi insomma. Sì? Sì, sì. Ha una voce bellissima. Quindi te la potresti magari inserire nel tuo disco, fare una bella canzone insieme. Dipende quando paga. Salutiamo la Serena che ci sta ascoltando, che prima non aveva sentito, insomma, comunque ti dice: ma io non lo vedo, non posso vedere, ma com'è? Insomma, allora gli abbiamo risposto, va bene. Allora, Rudy, siamo arrivati alla fine, perché poi insomma sono già più di 2 ore che siamo qui. Ti posso garantire che sono veramente letteralmente volate queste 2 ore in tua compagnia. È vero. Sei una bellissima persona, una piacevolissima scoperta. Mi ha fatto veramente molto, molto felice, onorato di averti qui questa sera. Piacere mio. E devo ringraziare Cosetta, ovviamente, perché è lei, sì, che è stata da tramite, insomma, a questa serata splendida. Allora, i tuoi contatti, dici qualcosa di te dal punto di vista tecnico. Beh, guarda, allora, per coloro che volessero vedere i miei concerti, le date dei miei concerti, basta andare sul mio sito Rudy Rotta, Rudy rigorosamente con la y.com, e sotto la pagina tour trovano, ma sono sempre all'estero, sarò soltanto in dicembre a Roma e forse in Abruzzo, in Campania, a Napoli, però al momento c'è soltanto la data di Roma, le altre sono tutte all'estero, Svizzera, Germania, Olanda, Belgio, chi più ne ha più ne metta, cioè sei sempre Austria. In giro, insomma. Sì. Sì, vado lì, questo non vuol dire che io non suoni volentieri in Italia, ma in Italia non ci sono i presupposti per un artista come me di suonare più di tanto, perché per i motivi che dicevo anche prima, sono le tribute band, sono i locali che non possono, cioè sono i locali che non vogliono pagare, i gestori dei locali spesso sono degli spinatori di birra e che non hanno una cultura musicale, e per loro una cosa vale l'altra, dunque facciamo tutti quanti della gran confusione. Io mi tiro fuori da questa situazione qua e ho una visione della musica, dell'arte completamente diversa. Certo. E in questo, apro una piccola parentesi, sul fatto che tu suoni di più all'estero e meno in Italia, vai d'accordo con Serena, perché anche lei è la stessa cosa, lei fa tournée all'estero, suona con il suo progetto. Che genere fa? Come si può definirlo, Maurizio? È un po' particolare, Deja. I Deja sì, un po' particolare, un po' canto autorale, ma un canto autorale è un po' atipico. Molto d'autore però, sì, decisamente molto raffinato, d'autore. Molto elegante, molto bello, ma sono bravissimi, sono veramente bravi. Bene, auguri allora, di sicuro, sai, non è facile all'estero, non è facile suonare una musica che non rappresenti l'Italia se tu sei italiano. Ci vuole del tempo. Io per esempio pago ancora oggi lo scotto del fatto che comunque io a livello musicale non rappresento l'Italia. Eppure la mia musica è la mia musica, non è musica americana ma ha della musica americana, non è musica inglese ma ha della musica inglese, non è italiana ma forse c'è qualcosa anche di italiano, non lo so, sta di fatto che... Te li faccio sentire in sottofondo. Non scendono, non scendono, danzano a sole l'incendono. Sembra aspetta che parla. Un passo pregno di passione. Non scendo, non scendo, non scendo, volta e risvolta, dritto, rovescio, stop. Vola, vola via il calzino, vola, vola via la gonna. Questo vento presuntuoso vuole comandare. Non scendo, non scendo, non scendo. Loro sono passati un mese fa circa. Vola, libera, ma ben salda al filo teso e danza l'unica regola è restare salda al filo teso. Devo dire che la parte di chitarra mi ricorda molto, mi ricorda, dunque non sto dicendo che copiata roba del genere, tutt'altro, mi ricorda molto le armonie dei Genesis. La voce invece no, è completamente diversa, ma la parte di chitarra mi ricorda molto i primi dischi dei Genesis, Killing by the Pound, sì, del genere, addirittura anche su Foxtrot, eccetera, i primi eccetera. Proprio, la voce invece no, mi porta proprio su un'altra, abbastanza folk, mm-hmm, decisamente, sì. E poi la voce ricordava, abbiamo citato prima Gene Sorrenti a microfono spento, se tu senti i primi dischi di Gene Sorrenti, queste armonie vocali un po' particolari assomiglia molto a Gene Sorrenti. Gene Sorrenti è la sorella di Alla Sorrenti, quello di Figlio delle Stelle, non 1970, St. Just si chiamava la band, così da lì conoscevi. Okay. Va bene, abbiamo comunque finito. Questa musica qua va sempre supportata, certo, sempre, perché si sente che comunque è musica fatta con il criterio giusto. Certo. Allora, noi abbiamo finito, diamo l'appuntamento, almeno per quanto mi riguarda la mia trasmissione, a giovedì prossimo. Abbiamo i Pink Floyd qui a Bologna. Sì, abbiamo, esattamente. Abbiamo... Però sono veramente similissimi, nel senso che i With Matrix sono veramente una band che sono praticamente fanno una cover, proprio nel vero senso della parola, che sembrano proprio loro. Verranno qui tutti e 11, dentro nello studio dove ci sei anche tu, Rudy, e faranno appunto, ci parleranno del loro concerto e la tournée in Svizzera, che sono stati anche loro, quindi bene. E l'appuntamento è per le ore 21 di giovedì prossimo. Però io ci sarò anche il mercoledì, se non sbaglio, con te, Maurizio. Sì, esattamente, con una band che adesso non ricordo, ma... Vabbè, beh, in ogni caso basta sentire la radio, certo, aprire la radio, e ci sono sempre sorprese positive a Rockwave, decisamente. Blu Radio Veneto è qui per regalarvi sempre la bella musica, come quella di questa sera con il grande Rudy Rotta. Allora Rudy, io ti strappo una promessa, se tu sei d'accordo. Guarda che ti sentono tutti, prossimo disco ce lo vieni a presentare qui? Ma cioè, di sicuro, certamente, ci mancherebbe altro, è un piacere. Noi ti aspetteremo a braccia aperte, certo, e ti accogliamo con molto piacere, veramente. Va bene. Un abbraccio, un bacio a Cosetta, che insomma sei stata, come dicevo prima, la nostra tramite. Maurizio, buon proseguimento a te di serata. Anche a te, chiaramente. E buon proseguimento ad ascolti i programmi di Blu Radio Veneto, che continueranno con la musica non stop. C'è il programma poi dopo mezzanotte, ma prima però c'è Rudy che ci lascia con... Bah, io ho fatto nel mio live in Kansas City, quando l'ho registrato, ho fatto questo... I went down to the crossroad, fell down on my knees, down to the crossroad, fell down on my knees. Ask the Lord for mercy, save me if you please. When I went down to Rosedale, tried to flag a ride, down to the Rosedale, tried to flag a ride. Nobody's simming on me, everybody pass me by. Run, you can run, tell my friend Paul Willie Brown. Run, you can run, yeah, tell my friend Paul Willie Brown. And I'm standing at the crossroad, well, believe that I'm sinking, I believe that I'm sinking down. Dice, ecco, fai un'altra? Allora, facci la finale allora. Went down to the crossroad, fell on my knees. Down to the crossroad, fell on my knees. And I'm standing at the crossroad, believe that I'm sinking down. Are you ready? Ready for the boogie? 'Cause I'm ready. I'm ready for the boogie. Boogie all night long, yeah. Boogie all night long. I said, ah! Listen to the people talking, they don't know who I am. Everybody thinks I'm crazy, well you know, yes I am. Listen to me when I'm singing, ask yourself what I am. And try to see beyond my face, try to see who I am. Got